Riparti Allora, ora. ero rimasto. Vabbè, intanto ciao a Allora, tutti, dovevamo siamo bla salvare. bla bla, dai, su, introduci. Scusate, Ok, allora, riassunto della erano campagna. stagista. Ci è stata affidata una missione. Gianfè, Dimmi. fai l'introduzione del programma, devi fare. Come programma? Allora, io sono preparato, però vorrei il mapping. Parliamo di mapping, che è l'ultima cosa che ho fresca della mente. No, dai, a parte gli scherzi. Che ne fa di introduzione? Che vuol dire? L'introduzione è... siamo a tre? Siamo Siamo quattro? tre. Che introduzione Uno, due, è? Mi è mancato troppo Gian per la scorsa puntata. tre. C'è figa. Mi è Buonasera. mancato Ok. troppo. Io mi vedo... Ci vediamo un po'... Ok. Allora, benvenuti alla quinta di Edizione. quinto episodio della nostra campagna di D&D. Cross Destinies e siamo. È il quarto, però vabbè, se ce ne vuoi dare un in Sicuro? più. No, sicuro, mi sembra fosse il quinto. È il quarto questo episodio, no? Davvero? Sì, Hai è il ragione, quarto. ho contato male io. Ho contato male io. Sono La da tagliamo ridere, questa. non è Questa che... la tagliamo. Sicuramente no. La tagliamo, tranquilli, tanto non è diretta. Tanti mi sposto. Ciao, comunque. Come Irene. Serve qualcosa? No, c'è questo. Gratis. Su. Humble. Andiamo. Attenti alle... Grazie. Devo fare io, capito? Va bene, allora rifacciamo. Benvenuti al Aspetta, terzo episodio, al quarto episodio della nostra avventura di D&D, quinta edizione, Cross Destinies, dove adesso il nostro Gianfe ci farà un riassunto della scorsa puntata nella quale non era presente, tra l'altro. GDR. Allora, io ero rimasto che avevamo pianificato come salvare Fede e quindi e che gli Come ha salvare? il suo bracciale. Ah no, quella campagna vecchia, scusa. Non era bello quella puntata. È stato bellissimo. Bellissimi ricordi. Oh, tu Ma sei non stato. era la scorsa, No, ma tu peraltro. sei stata la persona più stronza di tutte, che noi abbiamo pianificato tutto. Questo fa usa Missy Step che c'ha il Senti, Nico, bracciale. ha fatto bene perché sono bene in quel momento. Sì, quando sei fatto. Dov'è Merda, ma Federico? andiamo indietro parecchio. Questa è vecchissima, questa hai cacciato. Più di 2 anni fa Perché ormai. tu hai bisogno di qualche anno Sì, per sì. fare gli assunti. Esatto. Però dopo, cioè, ti so dare proprio un quadro generale top. Siamo a livelli Quindi? di... Non è neanche lo stesso personaggio. Ok, scusa. Quindi? Jump? Quindi. È da lì che ho scelto di prendere Missy Step come seconda Ah, la skill. backstory di te come persona, Sì, esatto. interessante. È da qui che Quindi. nasce il motivo per cui volevo fare il mago. Che non è un mago, sono uno Personaggio. stregone. Se avessi fatto un mago avrei molti più Sì, incantesimi. questa è la backstory di Jump e persona reale. Vedrete lo spin-off prossimamente. Quindi, nella puntata precedente, i nostri eroi si ritrovano per le strade di Waterdeep dopo aver fatto alcuni acquisti e guardato le vetrine di qualche negozio. Quando, d'improvviso, Pyre riconosce una faccia tra la folla. Una figura incappucciata. Attira l'attenzione di Pyre che questo provoca un inseguimento per i vicoli e le strade del quartiere commerciale di Waterdeep. Tra trasformazioni in ragni giganti che provocano un leggero scompiglio nella folla e Gianfe che cerca, almeno la mia versione di Gianfe che cerca di Ma scusa, davvero non lo fa Gianfe? scappare. No, hai cercato di ammansire le guardie dicendo no, no, calmi, calmi tutti. Aspetta, non mi sono preparato niente per il riassunto stasera. Allora, è successo che io ero il jump della stazione. Fatto il jump. Quindi si è morto. Dai, che poi non finiamo più. Allora, immagina di essere un druido che ha sempre vissuto nella foresta e quindi non si rende conto di cosa le persone possono, diciamo, di come le persone possono reagire alla vista di un ragno gigante. Poi ti fai di acidi. E poi ti fai di acidi. Aggiungici anche di acidi a quello. Quindi, dai. Va bene, va bene, facciamolo bene. Riassunto della puntata precedente, punti fondamentali. Pyre crede di vedere il proprio fratello ormai che ormai credeva essere perduto nell'incidente avvenuto più di un anno fa in mezzo alla folla dei vicoli di Waterdeep. Parte un inseguimento, ci sono come si dice, incomprensioni con le guardie della città quando un druido decide di trasformarsi in un ragno gigante, e lasciando che John e Pyre inseguino due figure incappucciate che per i vicoli. Non riescono tuttavia a fermarle e, sconsolati, si dirigono a una locanda che Pyre ha consigliato al gruppo, dove tipicamente si riuniva con la sua ciurma prima dell'incidente, dove possono passare una serata tranquilla a bere e rifocillarsi. La serata passa senza nessun evento particolare, e il mattino dopo si dirigono al porto per salire sulla nave con cui si erano messi d'accordo per trovare un passaggio fino alle Purple Rock. Tuttavia un imprevisto. Sembra che il capitano della nave non voglia più dare loro passaggio, e dopo un interrogatorio non proprio del tutto gentile da parte loro e aver lasciato un bel buco nello scafo della nave di questo povero uomo, sembra che i nostri eroi si accorgono che dietro a tutto questo sembra esserci gli Zentarium, questa mafia che avevano già precedentemente incontrato nelle loro avventure. Pyre e John vengono assaliti in un vicolo da un gruppo di loschi figuri e vengono aiutati in questa situazione da una vecchia conoscenza di Pyre, il capitano Lia, che, sebbene forse non del tutto necessaria per salvare loro la pelle, visto l'incommensurabile classe armatura di John, aiuta comunque i nostri eroi a uscire dai casini. Tutto questo mentre il druido, il ladro e lo stregone parlava con i gabbiani e inventava un gasso. Facevano altro. Cose molto tattiche, molto di ruolo, per cui mandare il gufo di Federico, che per una volta ha rischiato di diventare utile morendo. Però. Dopo aver eliminato questo problema nel vicolo e aver, se ricordo bene, decapitato i cadaveri, giusto perché le teste potevano essere utili. E lo stiamo facendo, tranne quelle che il mio compare ha schiacciato col martello. Contro il muro, certamente. Sarebbe un po' impratico, quello ci vorrebbe una ciotola, probabilmente. Lia, il capitano della nave, capitano, chiede a Pyre se hanno bisogno di un passaggio. Quindi, per riassumere del tutto... Come siete venuti, voi siete nel vicolo in questo momento insieme a Lia, che guarda leggermente inorridita voi che state tagliando le teste. Scusa l'interruzione. Sì. Siamo nel vicolo, alcuni sono nella nave. Dov'è Jump? Non stavo pensando. Il piano malefico. Jump ha cercato di Di scappare? No, di aver, era di... oddio, non mi ricordo più se era andato a cercare... No, è tornato per dire che in effetti, cioè per comunicare che ci stanno impedendo di partire. Sì, infatti, quello non ricordavo, però non mi ricordavo se tipo era andato anche a cercare un passaggio nel circolo di teletrasporto di Waterdeep oppure no. Ha preso il circolo di teletrasporto ed è tornato dove eravamo prima. Ah. Oh, per meglio dire, ecco, mi sembra, mi ricordavo che c'entrava il circolo di teletrasporto, no. Per meglio dire... Gianfe è andato fino al circolo di teletrasporto, è rimasto una buona ora a discutere con... doveva dare il pesce scarso, cioè... Con il maestro che, con il maestro che si occupa dei, dei teletrasporti per cercare di farsi portare a quello da cui erano arrivati, senza avere successo però ed essere stato sbattuto fuori in mezzo alla strada, senza troppi... Complimenti. Senza troppi convenevoli. E a questo punto probabilmente è ritornato in porto insieme dove si posso, ritrova con... Posso fare una variante della mia situazione? Ma certo. Ho, visto che ero triste e avvilito, mi sono messo a mendicare per le strade. E ho raccimolato mille monete. Esatto. Perché come il mio solito ci devo sempre provare. E ho raccimolato soltanto 100 monete d'oro, che è un passante. Soltanto di... Sì, ma io adesso sono mendicante, gli davo la benedizione del, del mendicante che gli davo un bonus. Qualche nobile di Waterdeep che passava per le strade provava pietà nel vederti, ed effettivamente tu hai raccimolato tutto quello che avevi speso offrendo la cena agli altri nell'episodio precedente, quindi sei a posto. Onesto. Severo ma giusto, come dire. Perché era parecchia roba. Ma ecco perché non capivo un cazzo in questo personaggio. Questa è quella di Star Wars, la scheda. E complimenti. Prendo il mio blaster e sparo all'orco. Ma detto, c'è un comic, ma da quando c'è, c'è un comic qua? Madonna santa. Madonna santa. Oh, signore, non ce la posso fare stasera, non ci sto con la testa. Eccola qua. Ce la allora. Cose serie. Perché mi chiama sempre Galli. Comincio a confondermi. Sono Galli per... Pyre e John stanno decapitando i cadaveri nel vicolo. Quando d'improvviso arriva un gufo che si posa delicatamente sulla... Guarda, sarei molto tentato a decapitare anche il gufo, però ascoltiamo che ha da dire sto gufo. Il gufo si deposita sulla spalla di Pyre. Cagando. E apre il becco, però invece che far uscire il suo classico verso da gufo che avete sentito più e più volte durante queste settimane di compagnia, è l'unica cosa che ha praticamente fatto, e sa l'ultimo respiro. Esce dal gufo, parte, esce la voce di Gino che vi ripete di, che riferisce il messaggio che vi aveva, che voleva mandarvi, ovvero che vi aspettano al molo, non succede niente, lì tutto a posto, lì tutto regolare, e se di far tornare indietro il gufo se tutto va bene, oppure tenerlo lì se c'è qualcosa che va male. Cioè, quindi da te, cioè, dovete tenerlo con voi fermo, se, se volete che noi veniamo da voi, e lo lascio indietro se invece non tutto bene trovate voi da noi. Io dico a John, John, facciamogli uno scherzino. Io lo farei. Non lo faresti? No, io lo farei. Che dai, stai, stai pensando quello che sto pensando io. Potrei. Quindi scusa, non ho capito, il gufo cosa dice? Dice dovete trattenermi se si se, se c'è ora se avete qualche problema, se volete che arriviamo, altrimenti lasciatemi andare e così torno indietro. O lo ammazziamo o lo tratteniamo in altro modo. Esattamente, sì. Lo intratteniamo. Ora intanto prendo il gufo. Okay. Allora, io dico, visto che ammazzarlo magari sembra un po' troppo cruente. Povero. Di Federico, vero? Sì, è un buffo innocente, è solo il suo padrone che ha messo un po' cioè, male. Se lo spennassimo? Tanto non vuole mai, infatti, è la prima volta che vuole. Direi che possiamo tenerlo. Non segue molto la giustizia di Apollo. Prendo il gufo e tipo lo sbagno sul sangue dalle teste. Ok, non gradisce molto, ma ok. E poi dico, tieni, vai. Vai, onesto, ci sta. Niente, il gufo si allontana svolazzando. Gino, tu dopo una quarto d'ora, 20 minuti al massimo, vedi tornare il gufo di Barbagianni. Io lo so nel cielo che si avvicina. Chiaramente macchiato di sangue. Ok, faccio cenno a... Vuoi vedere, si chiama Barbagianni? Il personaggio di... Vabbè, faccio cenno a Federico. Sì. E... Lui non ti risponde perché se... Lui se ne sta in disparte in un angolo, dice, fa un cenno con la testa senza dire niente. Niente di strano, facendo di tutto dire. Regolare. Jump, dove stai tu? Io ho conquistato i regni. Vedi giusto Jump tornare, sbucare da uno dei vicoli laterali e venire verso di voi a questo punto. Allora, abbiamo, seguimi. Ah sì, è quello che stavo aspettando. No, ti prego, oggi devo lanciare qualche fare. Ah, tra l'altro, Giampi, hai comprato una cassa di pesce l'anno scorso. E scommetto che, tipo, siccome mi ha fatto qualche incantesimo stupido, ho sprecato tipo 100 monete d'oro. No. Solo 500. Una cosa, con la direzione del buco e le indicazioni di Salla, riesco a trovare dove stanno? Ma io non dobbiamo dare indicazioni. È vero, perché Sanna è andato via che non sapeva dove andare. Così. Tu vai, no, si erano messi a gironzolare nei vicoli sperando di incontrare qualcuno di qualcuno. Beh, allora cerco di andare verso dove stava il gufo. Sto andando il gufo. Sì. Mi avvicino, diciamo, un po', cammino per 20 minuti circa. E non so, dimmi se riesco a trovarlo, altrimenti lo uso di nuovo, faccio tipo... Puoi fare un tiro di investigazione. Dai. 13. Riesci più o meno a individuare la zona dei vicoli, ma non riesci a incontrare Pyre e John. Scusa John, ma noi ormai abbiamo finito di scorsare i cadaveri. Sì, prendiamo le teste e dirigiamoci verso il porto. Esattamente. Torniamo a combattere. Aspetta una cosa, i cadaveri hanno tipo delle armi lunghe? No. Vedi che usavano tutti principalmente spade corte per combattere. Vabbè, se vanno dei paletti, ma vabbè, li troveremo. Ah, ho capito. Ok. Niente, però io cioè, comincio a girare un po' per i vicoli cercando quello giusto, diciamo. Okay. Aiuto a cercare. Non serve molto, più che altro a un certo punto sentite le voci di Pyre, John e Liv che da uno dei vicoli in qualche modo riuscite a rincontrarvi e a questo punto appunto il capitano Liv, che continua a chiamare Lia per qualche motivo sbagliato quando l'avevo chiaramente chiamata Liv la volta scorsa, e si rivolge a voi. Ok, questo è tutto molto interessante, ma se vogliamo partire penso sarebbe meglio sbrigarci. Avete detto che andiamo. Come non ti ho sentito? Andiamo, che sono molto eccitato. Tu non sei ancora con lui comunque, ma... quindi, sì. Dove siete diretti? Sta con noi, eh? Io sto con loro. Ah, è venuto con te, avevo capito che eri andato da solo. No, stiamo... Ah, ok. Io, va bene, e... in qualche modo a un certo punto riuscite a ricongiungervi. Sì. Gino, Gallifrey e Barbagianni, notate che Pyre e John si portano appresso alcune teste umane e non. Sono anche dei non. Io dico, sì, pensano, c'era tipo un mezzo mezzo loro. E ce le possiamo mettere dentro. Dico solo questo. Meglio. Quindi, se volete partire, sarebbe meglio farlo alla svelta. Non so per quanto ancora riusciremo a considerare questo porto sicuro per il nostro. Io sono d'accordo col partire. Dove eravate diretti? Sì. E posso avere un'oretta per mettere queste teste davanti a una nave? Sì, anche noi abbiamo bisogno di ultimare alcuni preparativi. La nostra nave non è del tutto pronta. Diamoci avvio. Sapete dirmi dove... Datemi qualche informazione sul viaggio in modo che possa preparare la nave. Sì. Dobbiamo andare alle Papa Rocks. Senti. Come si chiama la nave? Più chiaro di così. Ok, quindi vi scambiate giusto qualche informazione. Come si chiama la vostra nave? Se no, ottima domanda. La questione. Si chiama Vento di Tramontana. Fantastico. La libera d'Artis. Che poesia. Già. Ok, scambiate con lei qualche dettaglio. Quanto non so, volete dirgli della missione, cose del genere, o restate sul vago? Questa è solo una cosa di... No, allora io le dico, dobbiamo indagare su sulla minaccia che incombe queste terre e sulla vera origine di questi diciamo tizi mascherati che ci continuano ad attaccare. Cioè, sulla motivazione, cioè perché ci attaccano, che cazzo vogliono, insomma. Ok. Non dovrebbe volerci molto. Troviamoci al porto dove è attraccata la mia nave, tra un'ora circa. E dovremmo essere pronti a partire. Va bene, perfetto. Chiedo a John se mi può lasciare qualche testa. Sì, io sto andando. Ok, perfetto, grazie. Quante teste erano, più o meno? Erano, se ricordo bene, erano in 6 i vostri aggressori. Pyre ne ha spiaccicata una, quindi sono 5 teste. Sì, le avete prese tutte. 4 umane e una di mezzo. Basta una, dai. Ok, io prendo le altre. E dove posso cerco dei pezzi di legno per... Ma anche se sono già nel porto, tipo le ficole. Sì, cioè nel senso ci sono svariate falegnamerie che nella zona portuale, per tipo una moneta d'argento riesci a ottenere tutti i pali che ti servono. Perfetto, ne serve una testa più o meno. Uno a testa. Tranne la mia. Sì, te li procuri senza fatica. Ok, tolgo i soldi, ci sono. E poi vado. Devo fare una prova quando arrivo là. Di che cosa? In che senso? Non so, artigianato, forza. Ah, Dio, no, non è così complicato piantare una testa su un palo. Almeno presumo, non l'ho mai provato, sarò sincero, non ho mai provato. Pianto le teste. Dove le vuoi piantare, scusa, è quello che non ho capito. Torno alla nave. Quella della capitana Liv o di quell'altra? No, quella del tizio che ci ha rifiutato il passaggio. Ok, lui non è proprio troppo contento della cosa, però non si mette in mezzo, non ti lascia fare. Non voglio che mi si dica grazie. Ti guarda un attimo perplesso, ok, ricevuto. Io non voglio che mi si dica grazie. Intanto pianto le teste. Eh sì, sto facendo il logo al posto di Arci. Sto un attimo cercando di pensare come reagirebbero le guardie della città a vedere teste piantate davanti. Considera che le guardie mi conoscono già. Giustamente. E mi hanno già visto che sono matto. Però forse conoscono anche i proprietari delle teste. Possibile, però sì, se gli ha lasciato sopra tipo i cappucci neri, cose del genere, probabilmente lo riconosco. Per semplicità narrativa diremo che la cosa si svolge. E ci vengono piantate queste teste, riesci più o meno a ficcare, riesci più o meno a fissare i pali a delle casse o altre cose, o altre in altri posti vicino agli ormeggi della nave, e la gente tende a evitare un pochino quel molo per il resto della giornata, almeno fino a che qualcuno non... Non capisco il perché. L'ora passa, se nessuno deve fare qualcosa prima di andare. Gianfe, tu che non c'eri la volta scorsa, se vuoi comprare un'altra cassa di pesce. Come se non bastasse. Qualche mocio in più. Qualche mocio in più non basta. Vorrei quello tipo di ultima generazione. No, Tu hai qualcosa? Io voglio combattere. Io mi concentro e faccio tipo la un'oretta di meditazione zen dentro l'acqua, tipo sott'acqua. Ah, giusto, scusate. La capitana vi ha riferito che probabilmente per il viaggio ci vorranno 2 settimane. Ah, ok. E questo ve lo dico nel caso, non so, qualcuno ci abbia voglia di fare un salto da qualche parte prima di passare 2 settimane in mare. Aspetta, è trabocchetto. Aspetta, le provviste le ce l'ha lei? Sì, ha detto che preparerà tutto lei per il viaggio. Per il viaggio in nave, prepara lei. Ok. Prendo un po' di legna. Cioè, però la faccio io di farò. No, un po' di legna, tipo assi di cambio, cose. In giro. Quanto costa? Una decina di assi e una specie di mezzo tronchetto abbastanza alto, tipo 1,60 m, 1,80 m. Per una zattera di emergenza, dici? No? No? Ok. La dirò dopo cosa ci devo fare. Sì, okay, no, va bene. Per una moneta d'oro riesci a ottenere tutto quello che ti serve. Mistero. Infatti sarò anche io un po' curioso. Io ho fatto. Mi fa piacere. Okay. Cercavo di aspettare un attimo mentre Edo torna dal... Immagino telefonata con i suoi. Visto che siamo qui, quindi scusami, perché io forse non lo so, forse sto risaltando come sempre. Mi potresti dire cosa posso trovare in questo posto? Cioè, se devo come comprare qualcosa, cosa trovo? Ci sono tutti i tipi di bancarelle. Sei a Waterdeep, è una delle città più grandi di tutto. Ok, giusto. Di tutta la nazione. Tutto il regno. No, penso che era stati... una zona da dove stavamo. Non so, okay. Siete stati nel quartiere commerciale, avete trovato un negozio di armature. Sì, ho comprato quello che ci serviva. Mm-hmm. Io ho comprato le pozioni. Sì, non so, non siete, non so, se qualcuno, meno che non siete passati per negozi di oggetti magici, se qualcuno voleva fare un salto, ma... Non conosco soldi. Ma ci sono già andati, vero? Non lo so. E io ci rivado. Va bene. Già andati. Ci vado. Hai un'ora di tempo, non puoi stare molto a guardarti in giro, però puoi fare... Che ci metto a vedere? Vado là, rubo tutto e esco. Non ho voglia di ammazzare tutti. Tipo l'Apple Store di Waterdeep. Esatto. Cioè, e faccio... C'è la Wizard Bar. È tutto bellissimo. Non posso comprare niente, tipo per mettere un caso. Ma ci sono i genius che ti danno dare i consigli sulle tue esigenze. Secondo me dovrebbe avere questo tipo di incantesimo. No, dai, è il posto dove io ho comprato le pozioni magiche? No, il posto dove avete comprato le pozioni magiche si occupava solo di pozioni magiche. Se vuoi, puoi cercare un negozio di oggetti magici di utilità. Oggetti magici? Sì, ok, voglio cercare proprio quel posto. Lo trovo? Tipo, in un'ora e rimane Trovi, lì. Trovi svariati, ci sono svariati posti di oggetti magici, a un certo punto decidi di entrare. Quello che, diciamo, appare essere il più, capito, più gettonato. Cioè, che tu lo vedi proprio e dici, cazzo, questo è proprio per fighi, cioè devi avere proprio i big money. Sì. Deve essere una cosa che viene proprio in giro. Trovi la bottega... Sì, ho capito, ho capito. Ho capito. Che cane. Trovi una grande... Sembra un grande palazzo. Hai presente tipo... sei mai stato... Mi viene in mente solo da Harrods, tipo in Inghilterra. Sì, ma è stato, è tipo un gigantesco palazzo con svariati piani di dove sono esposti. La Trump Tower. Sei stato nella Trump Tower? No, no? Però l'ho visto lì. Riportalo, per favore. Certo. Va bene. È un palazzo abbastanza alto, svariati piani, dalle vetrine si vedono, si riescono a vedere svariati oggetti magici messi... Messi in mostra e sulla porta, una grande doppia porta che si apre sulla via che stai percorrendo, su una delle vie principali della zona commerciale, c'è il cartello I magici oggetti di Maltasar. E sì. Decidi di entrare nella bottega. Credo proprio di sì. E, allora, ti vado appena subito al punto. Appena entrato ti viene incontro un commesso, diciamo, dice... Benvenuto ai magici oggetti di Maltasar, dove ogni affare è magico. Come possiamo aiutarla oggi? Questa cosa. Ottima idea. Vado subito al dunque, allora. Vorrei chiedere se come oggetti magici, ovviamente ne avete, però in precisione vorrei avere tipo bracciali e anelli, se ne avete. E allora vedi che la bottega è stracolma di oggetti magici. Sì. Ma di tutti i tipi, nel senso ci sono per esempio... Armi, pure. Ci sono per esempio, se mi lasci parlare, aspetta, tolgo il microfono, sente i miei insulti a Gian. Ci sono per esempio animaletti, animali meccanici che si muovono da soli come giocattoli per bambini, oppure lampade magiche sempre che possono bruciare in eterno, eccetera, eccetera. Nel senso, non sono solo cose da avventurieri, ma anche da ricchi e facoltosi che amano dilettarsi in oggetti, con oggetti magici. Se tu puoi raggiungere la zona per avventurieri, trovi anche la zona per avventurieri, ovviamente. Sì, abbigliamento. Il commesso ti chiede se cerchi qualcosa in particolare. Sì, ti ho detto se ci sono, se ha di bracciali, collane e anelli. Ci sono alcune cose, tra le più gettonate ci abbiamo gli anelli di protezione, oppure... Sì. Non ho proprio i soldi. Ti prego, dimmi che costerà almeno più di 300 monete d'oro, ti prego. Dai prezzi che sono esposti sui vari oggetti, molti sono al di fuori della portata delle tue tasche. Allora me ne vado, cioè non è che mi si fa perdere tempo. Molti, non tutti, molti, perché sembra comunque un negozio molto gettonato dove tendono ad alzare anche un pochino i prezzi magari. E... Cerchi qualcosa di particolare, sì, perché non ti posso leggere l'elenco intero di oggetti magici. No, hai ragione, è tipo infinito, lo posso solo immaginare. No, tra quelli vale un anello. E visto che tu mi hai parlato di anelli di protezione, no, più che oggetti magici di quel tipo, se c'era tipo un anello, non, perché ovviamente non ti sto chiedendo quelli che hanno incantesimi potenti perché costeranno troppo, già lo immagino, però se tipo ci sono anelli che, non so, mi danno un più uno di classe armatura, un esempio. Più quelli uno quelli sono tra quelli che costano tanto per un più uno. Puoi bruciargli un cazzo di bastone così la smette di rompere. Lo so, però già c'è il bastone più uno altro. Già, e scappi e non ci sei. Potrei non farlo più se comincio ad avere una buona classe armatura, lo capisci? Potrò, potrò farlo vedere. Semplicemente rompi le balle. Vabbè, allora questo è niente perché è fuori dalla mia portata. Il bracciale di Missy Step quanto costa? Dove lo vedi il bracciale di Missy Step? Scusa. No, però immagino ci sia perché ho dei flashback molto molto vecchi. Neanche lo cerchi da male parte. Mi dispiace, li abbiamo appena finiti. No! Ciao. E comunque non credo fosse molto alla sua portata. E la stavano chiamando al cerchio del teletrasporto. No, vedi che tra quelli che potresti permetterti ci sono per esempio un anello del nuotare, per esempio un anello di come che si chiama, di Featherfall, caduta rallentata sarebbe un anello, dov'è, un anello del saltare e altri anelli di utilità non troppo. Quanto costa quel per saltare? Quindi mi immagino che sia un anello che mi permette di fare un salto più alto del normale. Sì, forse è un grande stagione. E di quanto costerebbe? Sulle, ti prego, siamo amici, ci conosciamo. Sulle 300 monete d'oro. Lo sapevo, sei un po' stato infame. Però perché sei un amico. Perché sei un amico? O perché è proprio così il prezzo stato? No, perché c'è il cartellino col prezzo su... Ah, ok. Quindi il master ha deciso così, capisco. E l'ultima cosa e poi me ne vado perché sennò faccio perdere tempo a tutti. No, che dici? No, ma che, stiamo scherzando, ci stiamo divertendo. No, ti chiedo soltanto se c'è tipo... mo dico anello solo perché c'ho l'idea di anello, però anche bracciale o collana comunque che potesse darmi, non lo so, no, se tu gli dici hai qualcosa che possa aiutarmi in questa situazione, magari lui ti può suggerire qualcosa, ma se gli dici, no, perché vorrei qualcosa che potrebbe curarmi il cervello. Il bonus, no, avere tipo più danni da fuoco. Più danni da fuoco? Sì, nel senso, come si può dire, non so, rafforzamento. Cioè, sì, quello che vorrei dire è anello rinforzo di istruzione. Ora, visto che non c'è l'anello rinforzo di istruzione su D&D... No, quindi... temo che non trattiamo in oggetti simili, purtroppo. Ho capito. Il salto, ho potuto libero nuotare. Ah, c'è un anello resistenza al fuoco, alla magia in generale? Ci sono gli anelli di protezione, ma quelli stanno più sulle 1500 monete d'oro. Ah, boh, ma ci siamo. Ma tu mica gli dico quante monete c'ho? Allora niente, dai. Okay. Non ti serve dirglielo, ci sono prezzati, è un negozio abbastanza grande questo. Ma vedi, c'è solo un commesso? No, ci sono altri commessi che stanno servendo altri clienti. C'è un po' ci sono tante persone. Sì. Vedi che ogni oggetto è tipo nella sua piccola bacheca con una piccola descrizione di quello che fa e il prezzo. Sì, ho capito. Quindi, diciamo, uccidere così tante persone è un po' troppo dispersivo. È quello che sto cercando di capire. Ok, va bene. Sai com'è, non vorremmo fare tardi, che poi c'è la nave, forse ci metti un po' tanto. Io già immagino la scena dove io arrivo correndo la nave, esaminato. Tornerò presto. E tu che esci dalla genere, sì. Fai. Guarda, vorrei uccidervi tutti, però un altro genocidio, le tre. Esatto, non faccio il tempo. Vabbè, allora io prendo, diciamo, il bracciale. Quale bracciale? No, il bracciale, l'anello del salto. E gli chiedo. Vabbè, io provo a tirare per cercare di contrattare, poi se non va... No, non... Ok, puoi provare a fare un tiro di persuasione, ma... Cioè, mi stai dicendo che la vedo dura? La vedi dura, non è proprio un negozio di quelli dove vanno gli ultimi, dei poveracci, questo è... Hai scelto il negozio più chic di tutti, è improbabile. Ho capito, però... ho fatto 18, 19, 20, 21, 22. No, naturale, cioè 18 più a 4, perché carisma, giusto? Cosa gli dici per... Cosa gli dici per... Gli chiedo, guarda, io ho bisogno di questo oggetto affinché possa aiutare tutto il popolo del bene e per la virtù. No, gli dico la verità, dice, guarda, ho veramente bisogno di questo oggetto per le mie missioni di avventuriero, tra quelle mie missioni vertono su segreti di Stato che non posso narrare, ma lo faccio anche per te, lavoro anche per te. Ma lui ci mette in imbarazzo, ve ne rendete conto? Sono sicuro sia così, signore, ma il prezzo non è trattabile. No, 2,50, e dico, guarda, 2,50 monete d'oro, e perché, cioè, quindi 2,50 non lo puoi fare. Mi spiace, non sono io che faccio i prezzi, dovrebbe parlare alla direzione. Vado, andiamo alla direzione, cortesia. Andiamo subito alla direzione, per favore. Ti rendi conto che a questo punto si sta anche avvicinando l'orario della partenza? Sì, ma tu sbrigati, fatemi la direzione. Oh, nessuno ti obbliga a comprare, nessuno la obbliga a comprare, signore, se non desidera, se vuoi desidera può andare benissimo a fare affari da un'altra parte. Questo. Ah, sei un brutto bastardone, vabbè, me ne vado. Glielo dici in faccia? Sì, sei un brutto bastardone e me ne vado. Bastardone è in senso affettuoso, con un sorrisino, sei un bastardone. Che bastardone. Che stupidino che sei, e me ne vado. La prego di uscire dal negozio a questo punto, signore. Dai, rubategli il bastone, chiudeteli in prigione, cazzo. Marco, quando hai detto anello del saltare, io ho capito anello del salutare, quindi non ci siamo. La magia. Vabbè, basta. Vabbè, ho capito, me ne vado. Ecco, bravo. Un'ora è passata. Al centro della città. Bravo, aspettiamo. Un'ora passata e vi ritrovate davanti al porto che vi aveva indicato il vostro capitano. E qualcun altro vuole fare qualcosa o siamo pronti a partire? Meno che Fire non debba fare qualcosa. Non dico Barbagianni. Perché... Ma per il fratello quindi com'è finita? E l'avete perso nei vicoli di Waterloo. Perso, per ora. Ciao. Per ora. Cioè, può dire che cosa succede? Per cosa. Ok, se nessuno ha nient'altro da fare, vi ritrovate al molo davanti al quale è ormeggiata la nave che... su cui dovete salire. E vedete che si tratta di questo... Non sono un esperto di navi, quindi perdonate il mio gergo... È una specie di galeone, però più piccolo, perché non saprei come altro chiamare. È sempre un tre alberi, abbastanza grande. È una nave tipicamente di quelle commerciali, per cui non è una di quelle più veloci e snelle. Ha dei cannoni? Sembra essere munita di qualche forma di protezione, cannoni soprattutto. Non è della grandezza di una di quelle più grandi che vedete comunque ormeggiate in questi porti, ma è decisamente grande. Ma i cannoni sono sopra o sono dentro? Tipo sono... Ah, tu dici sul ponte o sotto? No, sono sotto coperta. Sono sotto coperta. Se è una veloce occhiata, vedi che sono 5 per lato. Non è tipo una fregata? Purtroppo le mie conoscenze di navigazione non sono troppo vaste. Magari se riesco mi informo meglio per la prossima volta. E niente, vi fanno salire sulla nave. Vedete che l'equipaggio è composto da circa una trentina di uomini e che se la stiva è abbastanza vuota, perché no, ovviamente non stanno partendo per un viaggio commerciale, ma per accompagnarvi. Vi fanno salire, vi fanno vedere dove dormirete per queste 2 settimane. Vi hanno creato degli alloggi insieme agli altri dell'equipaggio. E se nessun altro ha cose da fare prima di partire, la nave si prepara a issare le vele. Ma puoi andare. Ok. Edo, tutto a posto? Ti vedo scancare col computer. È che sto ascoltando l'audio di YouTube e si sente merda. Si sente molto male, non capisco per quanto io. Bellissimo, sono un genio. Scusate. No, tranquillo. Dei ma si sente sempre un pochino male con la nostra, non ho mai non capito perché. No, abbastanza male, però non capisco per quale motivo. Vuoi fare, vogliamo una pausetta veloce, vedere se risolvi un attimo? Ah, ma tanto dobbiamo fare il viaggio. Non è mica detto che sia privo di imprevisti. Ma sì, beh, dai, facciamo, voi continuate, poi all'audio ci penso io, il video niente. Brigantino a Paolo. Brigantino? Può essere che sia un brigantino. Grande brigantino a Paolo. Allora. Ci può stare un brigantino, dai. Un po' più grande, me l'immaginavo sinceramente. È un brigantino a palo con una fila di velloni, qualcosa del genere. Più o meno. Definiamolo così. Magari. Scusate un attimo, navi... giuro che la smetto. Vai, tranquillo. No, scusate un attimo l'attenzione. È un pentagramma? No. Ah, no, non di 20, non capisco. Sì. Con le candele? Sì. Dovrebbe essere tipo... Vabbè, ok, andate avanti. Questo. Non è un po' copiato da Fumble? Non hai capito, è un... Sarebbe il cerchio per terra, sarebbe tipo pentagramma, però... Esatto, dovrebbe fare tipo pentagramma, ma... che si vede male. Okay. Vabbè, comunque vai, scusami. Vi ritrovate sul ponte della nave e il capitano Liv vi raggiunge. Pronti a partire? Sì. Vi chiede. C'è già Jump? Sì, vi ha raggiunto anche Jump. Non l'avete lasciato a terra. Vabbè. So che volevi farlo, John, però. E a questo niente, per oggi noi ci accontiamo del lato di Salla perché mi sente malissimo. E cos'è com'è? Però risolvere la cosa, non so perché non è un problema di YouTube, perché da problemi anche pure registrato nel PC, quindi non so che problema. Però voi sentite bene su Skype. Io ti sento bene. E anche noi vi sentiamo bene, non lagga per niente, però non so che problemi ha. Boh. Vabbè. Ci penseremo poi, non lo so. Sì? E niente, capitano dà l'ordine di issare le vele e partire verso le Purple Rock. Andiamo! E qua ci vorrebbe una musica piratesca, ma... Io non so come fare qua via Skype a mettere la musica per tutti. Si può mettere in post-produzione se vuoi. O se non avessero tutti le cuffie si potrebbe mettere. Però è incasinato. Oppure si potrebbe mettere in modo che la sentiamo solo io e te. Però ci lavoriamo per la prossima. Io in questi giorni con esami a tutti non... Vai, la prossima metteremo una musica. Ci proverò. Ok, la nave salpa da Waterdeep e voi passate i primi giorni di viaggio senza troppi problemi. Il vento sembra essere costante, non ci sono tempeste all'orizzonte e la nave procede a velocità spedita. Non così piratesca. Non stai andando a saccheggiare un villaggio. Per... Aspetta, okay, scusa, dicevi? Dicevo, a meno che voi non abbiate in mente qualcos'altro, passate questi giorni scambiandovi storie. Beh, con... Abbiamo 2 settimane, hai detto, no? Viaggio. Sì, ci sono 2 settimane di viaggio. Certo che faccio, io appena salgo sulla nave prendo quei legnetti che avevo comprato. Certo. Abbiamo passato 2 settimane in mare. Gula, ti metti a costruire. Ci costruisco un manichino in allenamento. Ok. Fammi una prova di... Hai qualche... Ho capito, scusami, quanto tempo è passato? Per adesso state trascorrendo, diciamo, la prima settimana in mare. Questo okay. Sta avvenendo durante la prima settimana. Ok, grazie. Sembra che Gino però voglia fare qualcosa. Vabbè, diciamo che il primo giorno io raccolgo un po' di materiale in tutta la nave e con quelli che ho preso io, le cose io mi costruisco un... Ok, hai qualche proficiency in qualche attrezzo o... Ma non può essere la tua magia? Scusami, è legno. Uso anche la magia. Cioè, uso la... La magia. Uso Druidcraft e... E vinci. Descrivimi questo manichino, cosa ci vuoi fare con questo manichino? Cioè, tipo... Effettivamente 2 cose, voglio allenarmici per il combattimento corpo a corpo, diciamo. Ah, ok, vuoi tipo creare... Il pupazzo d'allenamento per... Ah, ok, fammi una prova di destrezza, se non hai qualche attrezzo che possa aiutarti nel fare la cosa, tipo d'artigiano. C'ho il kit del ladro, il kit delle barista, il kit per la messa... Allora è una prova di destrezza pure, destrezza pura. Ho fatto 19. Riesci a formare un manichino abbastanza robusto, solido, sembra reggere a più di uno dei tuoi colpi, decisamente ben fatto. Diciamo che questo è per usarlo principalmente per fare, allenarsi a disarmare e combattendo disarmati, se ci prendono a sprovvisto, se c'è qualche incidente, perdiamo le armi. Sì, passi le tue giornate allenandoti contro questo manichino e effettivamente... Ogni tanto... Non è solo per me. Anche per gli altri. Certo. E effettivamente ogni tanto qualche membro della ciurma si ferma tra un lavoro e l'altro a guardare. Qualcuno tipo anche si mette a commentare sul tuo stile, cose del genere. La ciurma avete notato di circa una trentina di persone, non era abbastanza grande. Io mi alleno anch'io. Uso posso, mi usare, per vabbè, fare. Ecco, posso usare Shindelag e Druidcraft per, diciamo, non animare, però che ne so, tipo spostare leggermente qualche, diciamo, braccio, qualche paletto del manichino? O è troppo? Non è legno proprio vivo questo è stato legno morto, trattato cioè da parecchio tempo, non c'è molta vita da manovrare. Vabbè, volevo colpirti come Andrea. Tutti mi odio. Tutti? Anche tu ti alleni, Gianf, cosa fai? Sì, alterni i missi step con Fireball, perché tanto dopo ci mi riposo, cazzo. Vedi che al tuo primo lancio di Fireball cazzo è vero, quello fa la Danataria, faccio un casino della miseria e brucio il manichino, è stata una tragedia, è stata la scelta peggiore della mia vita. Vedi che c'è un modo per buttarlo fuori dalla nave. Vedi che al tuo primo tentativo di Fireball, quando l'energia arcana si condensa in una palla di fuoco nelle tue mani, 2 membri dell'equipaggio ti saltano addosso, ti placcano, cercano di fermarti nel fare di quello che stai facendo, perché ti rendi conto di essere su una nave di legno con parecchio cordame e vele che potrebbero facilmente prendere fuoco. E magari anche polvere da sparo e olio. Probabilmente, visto che ci sono anche dei cannoni, molto probabilmente, esatto. E olio per le lame. No, non lo leggo, non lo legano loro, dico io, lo leggo io. Alla chiglia. Rimangono un attimo esterrefatti dalla tua idea di voler lanciare una palla di fuoco sulla nave. ti pregano di non farlo più. Ah sì sì, no no, ma stavo scherzando, cioè non l'avrei mai lanciato ovviamente. Vedi che non ridono, non ridono molto allo scherzo. Non ridi più. Vabbè, questo ci sta, anche se in realtà, cioè, considerando che avrei stato prima Missy Step, sono stati veramente bravi loro a prendermi al volo proprio. La serie è stato bellissimo. Oddio. Aiutavo il master a fare la storia, cioè neanche doveva pensare a cosa fare, avrei distrutto io la nave. Sarebbe stato bellissimo. E niente, passate. Barbagianni passa tutto il suo tempo in disparte senza parlare a nessuno. Vabbè, stando sulle sue. Mentre dalle Frey dorme, mi avvicina a Brian. Dico: senti, secondo te c'è un modo per trovare qualcosa di pesante da legare a Gallifrey e buttarlo in mare? Ma che ansia! Che ansia! Beh, lo sapete, devo comprare l'anello per respirare sott'acqua. Non va a servire. Beh, guarda, una palla di cannone non è proprio leggera. Ci sono i cannoni? Sì, ci sono i cannoni sulla nave. Una decina in tutto. Allora vai, cazzo, gliela leghiamo. E lo buttiamo in mare. Quando è grande la palla di cannone? Così? Stai scherzando? Le palle di cannone sono grandi così? Ah, ok, piccole, ci sto. Non sono cannoni di grande calibro, diciamo. Sono cannoni comunque... L'alternativa è che mi privi io della mia armatura. Gliela mettiamo e poi lo buttiamo. La polena. Vedete che tipo dal terzo quarto giorno anche qualche altro membro dell'equipaggio inizia effettivamente a confabulare insieme a voi, pensare qualche idea che potrebbe essere buona per liberarsi di ciò. Perché tutto questo dono comunque unisci tutti quanti contro un nemico comune, esatto, te stesso. Beh, anche se gli attacchiamo il mio martello probabilmente secondo me la sua il boss finale si allerà con noi per uccidere lui in realtà. C'è Giampe che non so, intanto Giampe si lamenta della dieta a base di cetriolini e uova. Ma che dici, che ho portato una cassa di pesce ottimo di prima qualità. Pesce, e ovviamente lo cuoci. Che hai tenuto un giorno intero così senza troppo refrigerarlo, quindi già non è che fosse troppo buono. No, perché io l'ho messo dentro la mia borsa. Che non è refrigerante. Che tu dici? Cioè, quella è lo spazio, cioè deve essere ultra ghiacciato, se... vuoto, il vuoto. Qualcuno vuole allenarsi con il manichino? Io? Ma non posso stare su delle mie spalle. Tu non puoi fare più un cazzo. Tu sei il manichino. Tu sei il manichino. Oddio mio. E così passate i primi 8-9 giorni di viaggio facendo conoscenza con la ciurma, stringete amicizia con qualcuno degli altri. Io con nessuno. Ogni tanto la sera vi trovate sul ponte a bere del rum, bere okay, qualche altro liquore da marinaio. Sì, e gioco a carte e a braccio di ferro. E di che... E riuscite a simpatizzare facilmente con il resto della ciurma. Questo almeno fino al nono giorno di viaggio. Quando al vostro risveglio vi accorgete di qualcosa. Sembra che la ciurma sia molto meno allegra e spensierata di degli altri giorni di viaggio. Mentre all'inizio era tutto un cantare canzoni marinaresche mentre si puliva il ponte, per così dire. Oggi la ciurma è silenziosa e sembra concentrata nei loro doveri. E vedete che c'è più di una sentinella sull'albero maestro a guardare in lontananza. Fermo il primo che vedo che ha quest'aria, diciamo, più cupa, e gli chiedo cosa succede. Stiamo navigando in brutte acque. Chiedete al capitano per vi spiegherà tutto. Io devo finire. Il punto della nave da tutti gli occhi. Tra poco moriremo oppure no. Tanto male, facciamo la vita così. Vi dirigete? No, di pure. No, vabbè, vado a chiedere al capitano cosa succede. E dici che il capitano è al timone della nave. come suo solito, ma anche lei sembra avere un'aria più cupa in volto. Tu gli chiedi cosa succede, lei ti fa un cenno col capo. Vedi laggiù? E quella che ti indica è una massa di terra all'orizzonte. Sì. Quella è Gundarlun. Gundarlun. Perdona, questo sono io, scusate che non so pronunciare i nomi. Quella è Gundarlun. Una delle isole adiacenti alla nostra meta. Se è vero che... un attimo. Se è vero che gli Zendarim ci stanno alle calcagna, potrebbero avere mandato qualcuno ad aspettarci. E chi sono? Io seguo dopo. In che senso chi sono? Gli Zendarim sono quelli che vi hanno attaccato nella grotta e che hanno attaccato John e Pyre. Speriamo, c'è una voglia di combattere. Il premio non ho sentito il riassunto. Io lo dico, speriamo che ci sono, li ucciderò tutti da solo. Io mi metto su una sdraio. Vai, Edo è stato one shottato in un round, vedi tu. Quindi tenete gli occhi aperti. Questo perché io non gli ho spaccato la faccia abbastanza, ma la cosa non è. E la mattinata passa un po' ansiosa. Sembra vi state ancora state ancora girando abbastanza a largo di quest'isola. Però l'equipaggio è sulle spine, nessuno sembra essere molto avvezzo a rilassarsi e tutti stanno sull'attenti in caso di pericolo. Quando okay. Effettivamente, poco dopo l'ora di pranzo, dalla postazione di vedetta, si sente una voce. Navi a tribordo! E... tutti vi voltate pirati. Tutti vi voltate a guardare. Ammo tiramento! Questa non la capita nessuno, va bene, ok. No, non credo di averla capita. Asterix e Obelix, vabbè, vai. Non è passato troppo tempo. E tutti si voltano a guardare ed effettivamente pirati. Dietro uno dei promontori i galli da uno dei promontori più settentrionali dell'isola si vedono spuntare tre navi che puntano verso di voi. Vabbè, io mi siedo e dico vai gara. Lasciamo la nave così non ce la viene a rubare, se ne vanno. A questo punto il capitano inizia a gridare ordini, issate le vele e la nave inizia a muoversi alla massima velocità. Tuttavia, queste non sono navi come le vostre, sono navi più piccole e più veloci. E dopo circa un'ora di inseguimento, vi sono ormai le calcagne. E qua bisognerebbe cambiare la musica da marinaresca a combattimento, perché siete, ormai siamo in... siamo in fase di combattimento. Ok. Se volete tirarmi giusto un'iniziativa così preliminare per vedere come va la situazione. E questo sarà un problema perché non ho i miei dadi con me stasera, quindi sono tutto dipendente dalle app. Uno. Quindi si spera in un bug. Più la tua iniziativa? Non la voglio contare, uno è uno, cioè deve essere... No. Va bene, come preferisci. C'è una bellissima app, mi hanno detto, in un sito che si chiama RipGDR. Giusto, l'ho sentito anch'io, sembra un sito abbastanza figo. Cazzo di genere. Vero. Mi è complimento. Ho fatto da uno studentello da un bambinetto, però. Vabbè, un cazzo di genere. Il design è veramente curato di merda, però bellissimo. Vabbè, quello è vero. Io volevo condividere lo schermo con la tua app, poi ho detto che Edo si impazziva e... Ah, perché sei col... Ah, è vero, anche per Mac. Ah, l'ho fatto anche per Mac. Ma... Sette. Iniziativa 7. Mm-hmm. John? Secondo me 9. Anch'io 9. Bellissimo. Sono troppo felice. Lo butti in mano. Insieme. Ok, le navi stanno velocemente guadagnando terreno, per così dire, in mare. E a questo punto il capitano inizia a dare ordine alla ciurma di preparare i cannoni e prepararsi a un eventuale abbordaggio. Mi faccio, ma quali cannoni? Non ci starebbe bene un pezzettino di cioccolato ora. Ora, voi siete sulla nave. Per adesso c'è, diciamo, il cannone, Saulo. C'è, diciamo, il combattimento tra le navi per ora. Questa è la prima fase del combattimento. Grande come la mia fase. Con la mia esperienza marinaresca posso dare aiuto un po' agli... Certamente. Ai cannonari, a qualcuno, insomma. Sì, lui fa quello che tipo riesce da... Tu ti parti in 10 e lui da solo, l'altra morto. Esatto, non sarà mai a manare le vele. Un'ora di musica. Ok. Vedete che le tre navi si stanno si avvicinano alla vostra e sebbene più piccole della vostra anche loro montano dei cannoni. La prima. Ok. Due di loro vi affiancano e dai loro lati parte una salva di cannoni. Boom! Che si esplode, che esplode infrangendosi verso, verso la vostra fiancata. Volete fare qualcosa voi? Quando wow! Avete... ci puoi dire la distanza che c'è tra una nave e l'altra? Bravo. Quelle che vi hanno affiancate, una si trova dietro di voi, ma più o meno tutte sono a circa un centinaio di foot da voi, circa. Un 100 piedi? Per i miei range non sono altro che... Ma sono 100 piedi? Bruscoletti. Allora, se 30 sono 9 metri... Sono circa 30 metri da voi. Urlo al capitano, avvicinatevi di altri 50 piedi che vi salto dentro. Senti, allora io inizio subito lanciando, ma devo fare iniziativa qua, come... Ah, già l'abbiamo tirato. Abbiamo già fatto iniziativa. Ma scusami, ma come funziona mo? Perché se io posso colpire la nave? Sì, cioè posso lanciare un incantesimo sulla nave? Puoi sicuramente provare, cioè. Ma devo dirti una cosa, visto che tu mi hai impedito di allenarmi tra virgolette col manichino, perché sennò avrei ingegnato tutta la nave, qui tecnicamente un mio incantesimo di fuoco dovrebbe fare dei danni seri. Una pallina grossa così tu, se no, se una fireball e un firebolt no, però un fireball è probabile che Ma scusa, a quanti giorni di viaggio siamo? Questo è il nono giorno. Due settimane? Allora c'ho ancora per riposarmi, quello è importante. Che ci potevo riposare dopo! Vabbè, io vado, lancio. Devo fare qualcosa, iniziativa, posso lanciare così, tocca prima qualcuno. È un tiro... Ok. È un effetto ad area, però fammi comunque un tiro per colpire. È comunque abbastanza distante, diciamo. Non beccarlo vuol dire proprio essere un po' ciecati. Beh, uno, già adesso, già lo so. Ho fatto una merda, 5 più qualcosa. No, però c'ho 7, quindi ho fatto 12. Con 12 la tua palla di fuoco si schianta sul ponte di una delle navi. E adesso vedete il potere che arriva dal fuoco. Mi sento. Vedere sicuramente. Fammi cominciare a farlo con l'acqua. Cioè, devo vedere... App ufficiale RIP-CDR, esatto. Dice che dà fuoco alle robe infiammabili nell'area. Sì, sì, lo so, tranquillo. Stai discutendo col master, eh? Stai discutendo col master? Volevo sapere i danni, Gianfè. Oddio, Oddio. E ma come te la apro la? Vai a rigdr.wordpress.com. Il nostro sito ufficiale è rigdr. C'è. Fornisce ai suoi giocatori c'è la già, migliore c'è app per tutto. Tirare i dadi. Vai sul sito, c'è il link. rip.gdr.wordpress.com. Però devo aggiornarla perché in questi casi è fatto male. Dove sta su media? Contatti. Non hai un D6 jump che puoi tirare come un umano normale? Perché so. Vabbè, ok. Hai ragione. Ma il bello che ce l'hai, è quella la cosa. 6 10 10 13 11 15 13, 13 15 15 21 21 37 33, 33. Culo. 8 di 6, no? Sì. 33 danni. Un cazzo di danno comunque. A me è fireball, cioè incantesimo di terzo livello. Un'esplosione di fuoco avvolge completamente il ponte della nave. Sì, le vele iniziano a bruciare e vedete che dal ponte degli uomini si gettano in fiamme dalla nave per, si gettano in mare per cercare di spegnere le fiamme che li hanno avvolti. Il potere delle fiamme! Vedete che la nave inizia leggermente a curvare nella direzione opposta ed allontanarsi dalla vostra nave. Guarda, mandami da me, cazzo. Adesso però faccio tipo la stessa scena all'altra nave e faccio... E adesso? Vieni qua. Domanda, non ricordo, Thunderwave è dalla mia posizione, vero? Sì, è intorno a te, tutto intorno a te. Come... Quindi non lo fa. Marco, adesso tocca a me. Nel senso, alla prossima nave ci penso io. Ah. Allora, sì, è ancora il vostro turno, se volete fare qualcosa, dite pure. Mi siedo e prego. Boh, io sparo una cannonata se posso. Mm-hmm. Puoi dare una mano a... alla na... ai cannonieri della nave che già si stavano occupando dei cannoni. Fammi un tiro di destrezza. Questo è 8. Ok, erano già abbastanza organizzati di loro. Più o meno. Più o meno. Faccio e vedi che dalla nave parte una cannonata che colpisce a questo punto solo la seconda delle una delle due solo l'altra nave che vi è rimasta a fianco perché quella dall'altro lato è stata completamente avvolta dalle fiamme. Perfetto. E questo avviene abbastanza subisce abbastanza il colpo. Gino, dicevi? Se faccio windwall, le cannonate avversarie vengono fermate? Se vai? Scusami? Se faccio windwall, le cannonate avversarie si fermano? Ottima domanda. Windwall, vediamo. Mi sembra che le frecce vengano fermate dal windwall, se non sbaglio. Tra frecce e cannonate c'è un po' di differenza. C'è un po' di differenza. C'è un po' di differenza. Però, però, se non c'è scritto precisamente... Arrivo, ce l'ho qua, fammi leggere. No, dice che i proiettili di attrezzature d'assedio come cannoni così sono completamente ignorano completamente l'effetto di windwall. Ok, allora faccio praticamente crea una tempesta enorme sopra le navi non enorme, vabbè una tempesta di medie dimensioni diciamo sopra le navi rimaste e comincio a far cadere dei pugni sopra le navi, sopra una nave in particolare quindi. Cercando di distruggere gli alberi e di cioè, creare degli incendi. Questa cos'è? Con lightning? Esatto. Faccio 3 di 10 in un'area 5x5. E... Download. Ma non c'è scritto così. In un'area 5x5 è un bersaglio singolo. Sì. Probabile, probabile che sia così. Allora, forse lo spammi tipo sull'albero maestro, vedi come. Esatto. Quindi devi tirare, devi mirare. Ah, no. Esattamente quello che faccio. Spammo... tirare i danni, direi, così a occhio. Beh, non credo che abbia... Ok, di nuovo qua. Come stai cercando di concentrare... cose su un bersaglio in movimento, comunque fammi un tiro di, per colpire con la tua abilità da spellcaster. Ah, aspetta. No. Ho fatto 18. Ok, riesci a più o meno a, a indirizzare i fulmini sull'albero maestro. E... faccio 22 danni all'albero maestro. Da buono. E comunque rimane lì per, cioè finché non mi rompe la concentrazione qualcuno per mm-hmm. un minuto, non mi ricordo. Ok, dei fulmini si cadono addosso all'albero maestro della nave, quale, quella che avevi dietro o quella che avevate a destra? Destra ci dà fastidio che ci sono i cannoni di solito sono nella terra. Cioè, qual è quella che diciamo più pronta a spararci addosso come rotazione vicinata? Quella di sicuro a destra, però sono tutte pronte. colpisci l'albero maestro di questa nave e i fulmini si schiantano su di essa, ma e le vele sembrano iniziare a prendere un po' a prendere fiamme per un po', ma non stanno ancora completamente bruciando. Gli uomini che erano appostati sull'albero maestro di questa nave vengono completamente disintegrati dai tuoi fulmini. Grande barbecue di a questo punto la nave che e vira alle calcagna, si posiziona di nuovo e lancia un'altra cannonata verso la vostra. A questo punto, voi che siete sul ponte, siete finite, siete tutti sul ponte, immagino, a questo punto. Finite in mezzo alla salva di proiettili. Fatemi un tiro salvezza sulla destrezza, per favore. Tutti? Tutti. 11. 12. La salvezza sulla destrezza. Aspetta, come funziona? Se mai devo modificare le stesse. Ah no, su 3 vedo. 14. Una serie di cannonate colpisce in pieno il ponte della vostra nave. Alcuni degli uomini vengono colpiti e sbalzati fuori dal ponte, qualcuno anche che avete conosciuto in questi giorni. E in mezzo a questo trambusto finite anche voi. E tutti voi prendete 13 punti di danno bludgeoning per colpa dei frammenti delle schegge che vengono scagliate via dalle palle di cannone. Scusa, quant'era la destrezza che bisognava superare? Nessuno l'aveva superata. Nessuno l'ha superata. Beh. Quanto hai danno, scusami? Quanto hai danno? 13. 13. Ci sta. Tirato un po' di merda. Potevo fare di più. Potevo fare di meglio. Perché non tenti di uccidere i tuoi giocatori. Dai. Potevi barare. Ok, a questo punto la nave che tira dietro riesce a portarsi al vostro fianco e dal ponte di questa nave vengono lanciate delle funi con attaccate dei rampini in fondo che si agganciano alla vostra nave e fissandole insieme. Sì, la vostra nave sta per essere abbordata. Scusa una cosa, domanda. No, finalmente facciamo. Meno male. Ok, allora niente, se lo faccio mi inizio a incazzare. Ma non possiamo tagliare le corde dell'abbordaggio? Sì, sì, io salto di là. Non ce n'è una sola. Cioè... Iniziamo, cioè, nel senso della serie. Okay. Ma se faccio una firebolt ben mirata, se faccio un bel tiro, posso fare quel taglio dentro? No. No. Ma infatti sì, ma infatti già che ci stiamo. Io vabbè, tocca a chi tocca? Mi lasci finire, per favore? Per favore. Ma Pia l'ha ammazzato. Allora. Dicevamo, la nave fa un altro. La vostra nave questa volta. Se si accende il mio cellulare. Devi a toccarlo. Ok, vedete che la nave alla vostra destra, quella colpita dai fulmini di Gino, viene colpita anche da una cannonata dell'avvento di Tramontana, che distrugge buona parte della sua fiancata. Purtroppo gli altri cannoni non sono così fortunati da colpire l'altra nave. Quindi... No? Ma i nostri cannoni non sanno sparare. Cioè, non ho capito, i cannoni dall'altro lato riescono a colpire la nave che avevo colpito io. Sì. Ma i cannoni che stanno, diciamo, perché li stanno a bordare, cioè, che stanno a contatto con l'altra nave... Perché non è ancora a contatto, vi hanno solo agganciato per adesso. Però è ancora, non è proprio nella traiettoria di cannoni. Cioè, i cannoni l'hanno colpita un po' di striscio. Non è proprio... Ci vorrebbe qualche modello per visualizzare, purtroppo non è molto facile così. Okay. Vabbè, non avevo capito. Ok. Mi sta arrivando la nave, insomma. Sì. A questo punto le corde vengono tirate, le corde si tendono e gli scafi delle navi vengono fatti avvicinare. Vedete gli uomini sulla nave degli inseguitori che stanno tirando le funi e facendo avvicinare la nave alla vostra. E dai loro alberi, altri membri della ciurma, aggrappandosi a delle funi, si lanciano sul ponte della vostra nave. A questo punto siete stati abbordati e direi che possiamo entrare in combattimento. Yeah! Arrivo! Picchio Zampa. Che cosa? Non ha capito. Vai, non ha capito. Non gli ho soffiato. Pagolino, ripete. Hai furtività. Scusate, sto iniziando ad avere un po' di sonno. Faccio fatica stasera. No, possiamo anche finire dopo questo. Puoi uccidere Giant. Vediamo. È che sto cercando. Qua sto un po' improvvisando. Qua non sono riuscito a prepararmi troppo. Allora, la prima cosa che notate è che le figure che vi abbordano non sono decisamente tutte uguali tra loro. Riuscite a notare che la maggior parte sono uomini proprio marinai che potresti incontrare nei peggiori bar di Caracas. Sono uomini di mare, battuti dal sole, non sembrano troppo avvezzi al combattimento, sembrano proprio una ciurma di raccapezzata in giro. Mentre ci sono un paio di figure, di nuovo, avvolte da mantelli e cappucci neri che sembrano spiccare rispetto alle altre come stile di combattimento e cose del genere. Sono infatti meglio equipaggiate e pronte a dar battaglia. Io mi dirigo verso quelle. Durante il turno della nave avversaria, sulla vostra nave, riescono a salire sette marinai per esempio li chiamiamo marinai e tre figure losche e Barbagianni si muove per primo tecnicamente ma Non so, devo completamente ignorarlo per... Guardate che c'è una canzone... Parmigiani si muove per primo e decide di andare sotto coperta ad aiutare quelli con i cannoni per contrastare la nave che... Dada, le nave verso... Sono di Nanomor che si chiama Parmigiani. Dove la... Una delle figure inizia a muoversi sul ponte e con le, ed estrae una coppia di spade corte. Edo con un primo la ricordi? Eh? Edo la ricorda. Cosa? Una delle figure estrae un paio di spade corte e con un colpo spade corte con un colpo squarcia il ventre di uno, di uno dell'equipaggio e con il suo secondo attacco si scaglia su John. Vediamo John, dai. Vediamo John, dai. Con un 19 ti prendo? No. Te pareva. Ricominciamo. Scusate, un secondo. Okay. Però bravo, se ne avete messi, bravo, mi piace. Ce la faranno mai. Gallifrey, due dei marinai si scagliano su di te. Vai così, cazzo. Ma sì, io sono... I marinai quelli... Vabbè, potrebbe essere veramente... Per quanto sia, possa essere simpatico. Ok, uno con... Gli esseri nostri. Quanti ce ne sono? Sono rossi, che... Quattro di me. Uno critta. Uno critta. L'altro... Ma stai scherzando? L'altro ti colpisce con un 18? Certo. Shield! Tanto per... Non dovrebbe essere ordinario. Il crit te lo becchi. Il crit, penso che anche con tutti gli shield del mondo non... No, il crit non lo puoi parare. No! A meno che okay. Non l'hai. Ok. Vedi che... Vieni colto di sorpresa da uno dei marinai che con una scimitarra cerca di colpirti al ventre. Ecco, facendo... E... Con questo vantaggio riesce a colpirti facendoti 9 danni. Ma dai, ma che pacco! Cioè, col critico 9 danni? Sto male! Sono pacchi questi, non sono grandi. Non... Dovrebbero essere. Stai facendo eccitare. Tuttavia, riesci a parare il colpo del secondo marinaio che ti stava venendo addosso, generando una forza, uno scudo arcano. Gallifrey, tocca proprio a te adesso. Cosa cazzi vostri? Quindi quei due praticamente sono in engage praticamente. Io sono engage con te. Mi allontano, quindi disingaggio. Okay. E fireball. Oggi proprio come se non ti ball? Come fai a disingaggiare e usare fireball? Che cosa dici? Non posso? Allora, fire se disingaggi ball. È la tua azione innanzitutto. Ok, Missy Step, mi allontano e Fireball, ok? Fireball o Bolt? Non ball, capisco. Ball, incantesimo. Coglione, cazzo. Se usi l'incantesimo per disingaggiare, è un incantesimo di secondo livello, Missy Step. Se usi l'incantesimo per disingaggiare, puoi usare solo un cantrip nella tua azione. Come sei fiscale, madonna mia. Uno, due, cosa se usi prima cosa, seconda cosa. Nave, io ti prendo a legnate. Quello che stavo per dire, se usi fireball sulla tua nave è probabile che cada come per la nave degli altri. Questo è da considerare, però in realtà tu non lo sai, quindi ci sta che tu giustamente sia, quindi vabbè dai uso... No, aspetta, in realtà tu non lo sai perché te l'abbiamo detto noi, ci sta che tu sia stupido, il tuo personaggio non lo sappia e quindi lo faccia uguale. Ma non lo posso fare, quindi... Cioè, è verosimile, cioè... che lo faccia, però. Quindi io provo a farlo, ma mi accorgo che questi mi stanno quasi alla calcagna, e quindi invece uso Missy Step, e siccome vedo che non ho abbastanza tempo per usare la mia super fiamma, userò una fiamma di basso livello. Quindi cerco di caricare la una fireball bolt molto più sciolta e colpisco quello che mi ha criptato. Ha fatto il critico brutto. E vedi che una... è un uomo di mezza età con varie cicatrici sul volto, indossa tipo proprio una casata. Avrebbe 90 anni e starebbe per morire, io lo voglio ammazzare io. Okay. Okay. 19 lo colpisco? Colpisce assolutamente. Oh, che peccato, guarda. Sono così afflitto. 9. Vedi che la tua palla di fuoco lo colpisce in volto, lui inizia a dimenarsi in preda alle fiamme e senza accorgersene cade oltre il bordo della nave e finisce in mare. E quindi sopravvive perché si spegne la fiamma? Porca puttana, lo sapevo. Lo sai che se fai fumble tipo dai fuoco a tutto? No, con un firebolt no. Però se facevo fumble sulla vela sì. No, è comunque è una fiamma, è una palletta di fuoco, non è una fireball. Una vela di una nave. Una bella fiamma, che cavolo dici? Oh, non esagerare. Cioè, fireball. È il tuo turno. Agisci insieme a Gallo. Come mi pare quello davanti a me? Davanti a te, in che senso? È più o meno alto quanto te, però è il volto incappucciato, non riesci a vederlo bene. È il volto coperto. È un cenzoso. Due spade corte e una corazza. Un'armatura leggera, però. Beh, sembra... mi sembra armato bene, allora lo spammo, gli sparo in faccia. Allora, 11 più 8, 19. L'hai colpito. E poi anche un 18 più 8. L'hai colpito. Boh, facciamogli usare anche uno smite, così, per non saperne leggere né scrivere. Ah, gli faccio lo smite, non quello divino, gli faccio quello, come cazzo si chiama? Il Thunder Smite. Per cambiare un po', dov'è? Variare. Esatto. S T T T. Il fatto che non ci sia la musica, secondo me, ammazza di un brutto il combattimento. Ma come, non c'è la musica, non la senti? Non lo trovo. Ah, qua. Ah, fa un casino bestia. Fa un casino bestia, gli faccio 2 di 6. In più. Quindi sono... Che sfiga. 3. 5. Ho tirato solo uno praticamente. 6. 16 danni. Fa un tiro salvezza sulla forza. Sulla forza? Sì. Di sì. 14. Ha fatto solo uno. Superato. Vabbè, niente. E poi dico fermati. La giustizia di Poltus non ti punirà se tu non combatti. Ok, dalla tua spada lunga si crea un vortice di energia divina, senti il potere di Poltus in te e la schianti sul tuo nemico con un fragore pazzesco. In realtà non fa un cazzo. Lui rimane un attimo scombussolato, ma non sembra... E quel tuo fermati era qualcosa o... No, gliel'ho detto perché ci credo davvero, se lui sta fermo io non l'ammazzo. Ah, okay. Purtroppo queste tue convinzioni non funzionano sempre. Ma non lui, non... a me è fatto giusto. Sembra che non recepisca il messaggio. Stupido. A questo punto, altri due marinai fanno uno contro Gino e uno contro Pyra. Mancandovi brutalmente, vedete che le loro sciabole si schiantano. Uno si conficca proprio nelle assi della nave e rimane un attimo lì. Ha fatto uno. Gino, tu invece riesci a schivare il colpo senza nessun problema. No, posso dirti cosa c'è? Tocca a me adesso? Adesso tocca proprio a te, Gino. Ah, perfetto, perché se me lo consenti. Voglio sfruttare l'allenamento che ho, diciamo, fatto con il manichino per fare un sacco di mosse fighe Che... ci sono i copyright, ce la ci coprono l'audio. Come? Sì, ci sono i copyright sicuri. Dai, falli fuori tutti con sta musica. Praticamente lo... non la vendiamo, ci può stare. Lo colpisco tante volte, vedi, tipo lo... ah, tipo cani guerriero. Poi vedi che tra una mossa e l'altra, tipo le mie braccia, cioè i miei colpi, nel passare da una mossa all'altra diventano acqua. Quindi lui non può bloccare i miei pugni finché non gli arrivano. Va bene? Ok, è una cosa... cioè, nel senso, provi a colpirlo. Niente, lo disarmo. Ah, perché... puoi disarmarlo, va bene. Per fare molto flavor. Perché... okay. Ah, prima di questo, non l'abbiamo fatto prima. Quando siete stati colpiti dalla cannonata, fammi un tiro di concentrazione per vedere se le nuvole temporalesche rimangono. Devo tirare. Un tiro di salvezza sulla Costituzione. 12. Le nuvole sembrano aver mantenuto la loro posizione. No, ok, per voi disarmarlo. Questo è il marinaio che aveva cercato di colpirti, giusto? Sì. Ok. Fammi un tiro di atletica, se ricordo bene. Posso avere qualche vantaggio perché mi sono allenato, ho fatto il flavor, le cose fighe. Dai, ho fatto la mossa figa. Le braccia che diventano acqua da una mossa e l'altra. Ne teniamo conto. Anzi, ti do un punto ispirazione per la cosa figa. Quello ci sta. Ah, grazie. Quindi hai detto atletica? Sì, atletica. Se ricordo bene, è atletica per disarmare. Troppo le regole di disarmare. Oh, guarda, non cazzo. È 11. Ok, aspetta. Dammi un attimo. Pensavo di, non so, di uscire meglio. Ma tu puoi tramutarti in acqua, giusto? Sì. Vabbè. Con 11 riesci a, utilizzando queste mosse da druido ninja con il tuo bastone, lo colpisci sul polso e riesci a fargli volare via la scimitarra che aveva in mano. Perfetto. Tipo alla, e lo insulto anche, tipo... dico combatti come un allevatore di mucche. Se rispondi a questa, Marco, ti amo. Se sai che cosa so, cioè a cosa mi sto riferendo e mi rispondi, ti amo. Combatti come un allevatore di mucche. Sì. You fight like a dairy farmer sarebbe l'originale. Temo che mi manchi il riferimento. Monkey Island, il combattimento di insulti. Ah, no. Sai che Monkey Island non l'ho mai giocato. Vabbè. Cioè, ce l'ho, non l'ho mai finito. Dai, non posso fare i fulmini con l'azione. No, poi? Non posso far venire giù i fulmini. È un'azione bonus? No, mi sembra, punto. Allora no. Allora niente. Ho già fatto l'azione. Mi dispiace. È un peccato. No, devi usare la tua azione per farlo, ma l'hai usata per disarmare. A questo punto, le altre due figure... Si scagliano di nuovo, una su Gino, uno su Pairo. Hanno tirato una merda come iniziativa che non vi dico. Allora, sbagliato dado. Pairo, con un 19 ti colpisco? Ok. 19 ti colpisco e se guardi subisci 4 punti di danno. Ok. Cazzo, mostri per fuori si toglie anche 3, quindi wow. No, 13 per io. E mi fai un tiro sulla costituzione, per favore? Ma scusa, perché i due contro Gallifrey sono pacco e i due contro di noi sono forti? 19. So, è quella, ci deve adesso vedi. Ok. 19, aspetta. Senti un bruciore della ferita che ti attraversa il corpo e prendi 5 danni da veleno. Adesso sono stati un attimo rifatti questi, sono stati rimodellati, non menano più come la volta scorsa. Ma no, sono Gallifrey e veniva ucciso. Ma a me piaceva che picchiavano così. A me piace quando fanno i critici. Se ti fanno 9 danni, sì, ma se te ne fanno tipo Edo l'altra volta 46, vedi che ti passa la voglia. Con un 12 però immagino che non ti colpisca. No. Lui è potentissimo. Ok, l'altra figura su Gino. Sempre con un 19, Gino. Sì, mi colpisce, voglia. E sono 2 attacchi, quindi un 18. Ah, un altro attacco, sì, mi colpisce. Invece, a proposito, ho capito. Sta sotto coperta a dormire. Sotto la coperta. No, sta andando a mangiare a... Ah, sì. Oh. Ecco. Com'è? Niente, stiamo morendo tutti perché Federico dà da mangiare al suo uccello. In che senso? In che senso? Non mi sensi. Se l'hai già là. Scusate, mi scrivono dalla casa. Cioè, da dentro la casa ti scrivono? Sì. Ma non è vietato portare il cellulare della casa? Allora, dicevamo... C'è una stanza di fianco alla tua che ti scrive? Non di fianco alla mia, ma sì. Ok. Perché? Vabbè, ci sta. È bella ragazza, almeno. Sì, ma è impegnata. No, vabbè, non è uno stato. Scusate. Io ho già detto che sei un ingegnere informatico. Sono tutti ingegneri qua dentro. Che cazzo gli frega allora? Non so, era bello fare la battuta qua dentro. Va bene. Impegnato. Dicevamo, Gino, tu prendi un totale di 10 punti. Di 10 punti danno da slash. Ok. E anche tu mi fai 2 tiri salvezza sulla costituzione. Aspetta, costituzione è... Merda, ho più 3. Quindi è buono. Ho fatto 2 fumble. 1 e 1. Non ci posso mai credere. Hai fatto una toppa. Ho fatto una toppa. Come fila dell'applicazione e lo sviluppatore gioca. Hai fatto 2-1? Oh, sì. No, cioè, perché adesso c'ho pure Fireball. Ok, senti che i colpi non ti danno troppo fastidio, hai subito anche di peggio. Però nelle ferite iniziano a bruciare e senti proprio un dolore che si inizia a disperdersi nel suo corpo partendo da queste ferite. Subisci 24 danni da veleno. Porca noia! Cazzo! E mentre lanci un urlo di dolore sul volto di questa figura, sembra salire una smorfia, un sorriso, sembra godere di questa cosa. Ti vendicherò io. Adesso faccio così e gli cade un pugno in testa e muore. A chi tocca? A me chi tocca? Da dov'è? No, ci sono i marinai. Come sto morendo? Se ci stanno strangolando i marinai sotto coperta, perché ci sono i marinai 5, 6 e 7. Stanno. Che per a rigor di logica vanno tutti su John, perché sono. Che voglio. Ce l'ho con John stasera. Lui è un tank, ci mettiamo di più a ammazzarlo. Come siamo lui? No, non colpisce nessuno di loro. Pyre. È il tuo turno. Giusto per ricordarmi, 20, giusto? Sì, 20. È 20 per colpire. Sì, è 20. Allora, aspetta, io sono corpo a corpo con il tizio, quello... Sei a corpo a corpo con uno dei tizi mascherati. E con uno dei marinai che... Ok, allora, do una martellata in testa a quello più figo. A quello più figo, va bene. Vabbè, ma vediamo di cosa colpisco. Con un 22? L'hai colpito. Allora uso anche l'abilità del martello con l'avversario singolo. Ok. Mi faccio, no, 3 di 8 in più. Quindi gli faccio... No, tiro. Meglio. 9 più... 3, 12 più... No, 22. Con un attacco, però. Sì, ha un attacco, sì, una seconda. Ok, niente. Sempre su di lui o sul marinaio, secondo, non so. Dimmi tu. In caso con 9 lo prendo il marinaio, no? Non può... dirmelo. Sempre, comunque volevo farlo sempre su lui, quindi no. Ah, ok. Comunque non avresti preso neanche il marinaio. Va bene. Su. A questo punto, dall'altra nave, quella che non è ancora riuscita ad abbordarvi, parte un'altra cannonata, che colpisce il fianco della vostra nave, ma non riesce ad arrivare sul ponte, non vi crea fastidi. Mentre da quella da cui sono partiti i rampini, scendono altri 5 marinai che si avventano. Questa è la sessione che ci vuole uccidere. Fissa, vuoi finirla qua, deciso. No, perché... in effetti no, ho sbagliato, perché alcuni di loro si vanno anche a scagliare contro i vostri. Sono pippe, no? Sì, sono le pippe. Quanti ce ne sono di quelli invece col cappuccino? 3 per ora. Ok, uno lo one shot. Per cui siamo di nuovo a capo, ok. Alla figura incappucciata che è da John. John, lui prova a colpirti, ma con un 18 non ci riesce. Ci sei quasi. E con un 15 anche meno. Quasi. Qualcuno riuscirà a colpire prima. Immagino lasciare lui che sta così. tipo le spalle, poi. Beh. Vabbè, oltre a quei 5 marinai intendo quelli che scendono svariati marinai, 5 dei quali però si mettono a combattere con voi, perché mentre intorno a voi ci sono altri combattimenti che stanno mancando. Vedete che anche che il vostro capitano, il capitano Liv, sta tenendo testa a più di un uomo sul ponte di comando. Bravissima. Credo che sia ora di finire questa storia, non credi pure tu? Ok, quindi questa sminchia... Io vado lean su quello che ho davanti, uso tutto. Ci sono altri 2 marinai su John? Finirà lo spazio intorno a me dopo un po', Uno di loro ha fatto 20! Allora, 17 più 3! Ah no, 17 più 3 va bene, dai, lo piglio. 17 più 3. Questa te la concedo. Perché onesto. Ha fatto 2 danni il marinaio. Esatto. 2 danni. Vabbè, ho 15 ferite, dai, ci sto. Ah, Cristo santo. Tu sei deciso che devi ricordarti che sei mortale. Sempre il marinaio che era su Gallifrey prova a colpirlo di nuovo. Come? No, nessuno sta su di me. Sì, tu ne... Ah no, è vero, perché ti eri allontanato. Hai ragione, scusami, senza mappa non è facile. Perfetto, allora, altri 2 di loro... altri 2 di loro si buttano su Gallifrey. Ecco, mi resta dove stavo io, visto tanto. Uno fa 1. Uno fa 11? No! Quindi che due marinai cercano di colpirti, una sciabolata a destra, una sciabolata a sinistra, ma sei veloce come il vento. Sono niente, c'è Gallifrey, tocca a te, insieme a John. Allora, io... Non dare fuoco alla nave. Scusa una cosa, devo chiedere un'informazione. Se io voglio colpire un'altra cosa che non c'entra niente con quei due che ho di fronte, c'ho svantaggio? No, non perché c'hai due di fronte. Cioè, ok. Quindi io posso tipo girarmi e colpire altro. Sì. Tipo la nave. Sì. Sì? La tua nave o un'altra? Per quanto fosse assurdo, vorrei colpire l'altra nave. Scusa, ma quanti slot di livello 3 hai, scusa? 2. Ah, okay. Ah, perché hai usato i punti stregoneria per... No, c'ho due... Ne ho usato uno solo, perché l'altro... Ah no, perché mi sembrava che al quinto ne avessi uno solo di slot di livello 3. No, ricordavo Mario. No, comunque non era intenzione di usare Fireball, ma usare... tu hai detto che quante corde più o meno ci saranno di abbordaggio, circa? Hanno continuato a lanciarne altre, ce ne saranno tipo una decina. Fare quello che dici tu. Non basta sparare la nave. No, perché io volevo usare Magic Missile a livello 3 e quindi sparavo... Però ci sta, secondo me, che spammi un Fireball nell'altra nave, la affondi e finiamo sto giochino del cazzo. Vabbè, dai, è andata. Uso tutto il mio potere, cioè mo tiro per colpire anche se... Quanto rido. Vabbè, comunque uso Fireball sulla nave, l'altra. L'altra, quella che era stata colpita dai fulmini, dici? Sì, quella che sta continuando a dare le cannonate. Sì, quella che ci dà fastidio, insomma. Cioè, ok, ok. Non ha dato neanche troppo fastidio. Oh, ma se, con 26 colpisco? Con 26 chiedo. Colpisci, con 26. Incredibile. Beh, ti faccio tirare perché ti diverti, però l'hai abbastanza distrutta perché era già stata danneggiata e... Cioè, power Gallifrey questo episodio. Gli ho messo apposta le navi per farlo divertire un po' con le cose. Farlo giocare. Tieni tanto più possibile. Ho fatto 20. Uso due punti di stregoneria per ritirare. Ma dai, ma è uno spreco. No, non li usa mai. Cioè, infatti, no, un punto di stregoneria, scusami. E poi io spello. Quindi ritiro, per favore riconto. 4. 10. 15, 20, 26, 28, 31, 32. Boom! Si sta, è molto GDR che abbia ritirato. Vedi, ti astrai completamente dalla situazione, non dai minimamente attenzione ai marinai che hanno cercato di... agli uomini che hanno cercato di infilzarti con le loro spade, e nelle tue mani si crea un vortice di fuoco che tu comprimi in una sfera di energia che lanci contro la nave. La sfera esplode e insieme alla sfera la nave esplode. Probabilmente hai colpito un deposito di polvere da sparo, di olio, e vedi proprio un'esplosione gigantesca che spezza la nave a metà e la nave si inabissa nelle acque. Fammi un tiro di Gallifrey. Fammi un tiro di intimidazione. Intimidazione? Che cazzo è? Uno. Intimidation, che cos'è? Tipo del carisma. Puoi aggiungerci anche la proficiency. 18. Potevo fare molto meglio, lo so. Vedi che alla visuale della nave che esplode va in mille pezzi, i due uomini che hanno cercato di colpirti si cagano decisamente addosso, lasciano cadere le spade e iniziano a indietreggiare da te. Il potere! Ho il potere! Limitato. Senti, io come ho detto... Sì, ma in realtà ho detto, ho finito i 10 slot, quindi è finito il divertimento. Io adesso vai, scusami. Cosa. Come ho detto, vado all-in su quello che ho davanti. All-in. Quindi all in. Faccio un Hunter Marx, così, tanto per simpatizzare. E poi ricordi lo che lo puoi spostare dopo. Eh? Sì. Lo puoi anche spostare. Su quello incappucciato. Sì, sì, immaginavo. E poi lo sminchio. Allora, 9 più 8, mi piace, lo ritiro, faccio il zoom lucky. 18 colpito, grande, quindi forse anche 17 l'ho colpito. Vabbè. E lucky anche su questo tiro, non so se posso usare due lucky in un round. Sì, li puoi usare, l'importante è che una volta finiti i lucky sono finiti i lucky. Va bene, 26 l'hai colpito. Ok, poi uso uno smite di secondo livello. Okay. Quindi sono 4, 8, 16, 16, 7, 16 e 7, 23. Però io devo controllare una roba. Ok, sì. E 28, poi sono 2 di 6. Ok, sono 37, 47 danni. Ok. Cucù. Senti la mano di Foltus che scende dal cielo e guida i tuoi colpi. E con una... E l'ho detto che facevo l'in, cazzo. No. E lasciando che la sua spada venga avvolta da una luce celestiale, colpisci il tuo avversario che viene squarciato letteralmente a metà. Sì, ma non controllo la forza, cioè, con 46 distruggi la nave. Che cade a terra e esangue e per senza... cioè, no dai, veramente. Almeno che faccia un po' di danno nella parte in cui si trova lui, necessariamente, che faccia tipo un buco. Che lui si squarcia e cade giù. Tipo, dove c'è Barba Gianni, mi cade addosso. Cioè, la spada si conficca effettivamente nelle assi di legno della nave, lasciando una bruciatura sul ponte. Anche tu, se vuoi, puoi farmi un tiro di intimidazione o cercare di... Mi serve. Cos'è, più carisma? Socia? Uh-huh. Carisma sono forte. Sono 3, 3, 6, 17. Non è carissimo, carismatico. Sì, decisamente anche te, gli altri, almeno due dei tre marinai che erano di fianco, anche loro si stanno cagando addosso, iniziano ad allontanarsi da te. Cioè, vedi che non hanno più tanta intenzione di combattere. Vedi che ho detto bene, se non vogliono combattere, la giustizia di Foltus non li punisce. Eh già. Però ci sono gli altri che sono ancora su... Pyre e su Gino, quindi loro. Ci stanno ancora? Allora, io sono ancora concentrato perché ho fatto 20 di costituzione per la concentrazione. Ok, però adesso la tempesta è sempre rimasta un po' indietro, cioè nel senso era dove era prima la nave, adesso non c'è più la nave. Ma scusa, io e... No, ma è molto in alto la tempesta, eh? Ah no, è vero, hai ragione, perché è grande, copre una grande area. Però ricordatevi, voi siete in movimento e state anche... questo è vero. Vabbè, ma la tempesta segue, non è... Ma io e John non possiamo guardare di cattivo sguardo gli altri, così si interdeggiano anche da Edo e... Gli altri sono impegnati, gli altri. Pyre, con un 16 ti colpisco. Credo abbiano un po' intuito le esplosioni. Cioè, che cazzo, non lo so. Hai detto che ti colpiscono, scusa? No, con 16 no. Ok. Gino con un 15? Stai pensando? E di che uno dei pirati approfitta dell'apertura creata da tizio incappucciato per colpirti e ti fa 5 danni. Posso usare scelta sui miei amici? No. Però Gino, adesso tocca a te. Ah sì, dice che posso usare anche quanti cazzo voglio. Basta che ce li abbia. No, non ho problemi, io non ho amici, era solo per dire. Tocca a me? Sì. Il tizio, cioè, ci sono tizi incappucciati ancora, tipo quello vicino a me che mi ha colpito. C'è il tizio vicino a te che ti ha colpito prima, incappucciato, insieme anche un altro marinaio. Allora lo folgoro con un fulmine e poi divento un rosso, anzi no, un lupo. Ok, lui per il fulmine è un tiro salvezza, giusto? Deve tirare lui, mi sa. Sì, sì, deve tirare un po' destretto. Sì. Ragazzi, di difficoltà è 14. Sì, lo supera, in qualche modo... Ah no, aspetta, il tizio incappucciato o il marinaio? Penso che colpisca solo il tizio incappucciato perché gli cade sopra. Sì, no, nel senso, era il tizio incappucciato che miravi. Sì. Non avevo capito quale dei due. Sì, l'ha superato. E quindi si prende 11 danni. 11 danni? Ok, vedi che lui, il tizio incappucciato, si muove decisamente meglio rispetto agli altri uomini sul ponte e con uno scatto felino riesce più o meno a schivare il tuo fulmine. Poi diventi un orso, hai detto? No, un lupo. Ok, quello che vuoi. Ok. Tocca proprio al... sbagliato. Tocca al tizio incappucciato su Pyre. Prego. Ma posso fare shield sui miei amici? Nel caso avessi amici, dico. È self. Con la prima spada, prova a colpirti, fa 20. Non naturale. Con la seconda fa 14, quindi direi che solo la prima colpisce. Pyre, subisci 5 danni. Ok. Però vedi che... riesci a notare che sebbene prima entrambe le spade sembravano ricoperte da una sostanza nera viscosa, con quella con cui ti ha colpito sembra non esserlo più, quella con cui ti aveva colpito anche in precedenza. Okay, e infatti questa volta la ferita non sembra bruciare come quella di prima. Ok, perfetto. Su Gino invece la mia Gino. Ah, sì. Ok. Anche lui fa 22 per colpire con un tiro. Mentre il secondo purtroppo fa solo 8. Tipo classe armatura 11 adesso. 14. Fa 8 col secondo. E anche te, Gino, sono 7 danni. A questo punto questi qua si sono cagati addosso a vedere John che però John ne ha ancora qualcuno. Ma come, John non c'è, non è restato indimiditi dal suo immenso potere? Non tutti. Hai visto John? Qualcuno si cagava meno addosso. Allora, tre provano ad avventarsi su di lui, ma solo uno colpisce con un 21. Va bene, sì. Colpisce con un 21, fanno più tempo. Per ben 3 punti di danno. Non mi sta neanche a curare. Mi sembra il giudice riluttante che accoglie l'emozione. Sì, vabbè, non accetto. Ok, l'altra nave è stata distrutta, rimane solo l'ultima nave che l'unica. Vedete che altre persone scendono da questa nave, e tra di queste, mentre molti marinai si mettono a combattere con gli altri membri della ciurma della vostra nave, solo una figura viene verso di voi. Una figura però incappucciata come le altre, e che porta un un mantello con più ricamato e rispetto alle altre. Sembra essere una figura in comando. Senti, io la gag di prima la posso rifare. Cioè? C'è ancora un altro Lin? Ah, ok, va bene, fai pure. Salla, c'è un altro Lin da poter fare? Sì, tipo quello di prima, sì. Poi devo fare gli stessi dati. Non so quanto. Fire, tocca a te però. A questo punto, mi ero dimenticato. Allora, io sono ancora in corpo a corpo col tizio, immagino, sempre. Sei in corpo a corpo con il tizio incappucciato, mi sembra anche uno o due... Sì. No, solo uno. Vabbè, picchio il tizio incappucciato. Sì, ok. Un 20 naturale ed un 19 più 6 più 1 più 7 è un 16. Un 16, colpito entrambi. Ok. Tiro prima il 20 naturale. Vai. Undici danni, sì. Più questo ritiro, questo va a buttare. Ricordate che i dadi vengono raddoppiati, come temporale. Ah, allora ho fatto prima, ho fatto 16, se no che 20 naturale è, scusa, se no. Quindi prima 19 e adesso 14, quindi 23 danni, quindi 33 danni più 1, 33 danni. Qui 35. Ok. Perfetto. Non crepa. Il tuo martello colpisce e duramente, e la figura viene scaraventata oltre il parapetto della nave e finisce in mare. Ok. Una domanda, il tizio, cioè i marinai che mi stanno vicino sembrano ancora intenzionati a colpirmi, cioè ad attaccare? Per ora sì, cioè, hai ucciso uno, però sì, non è stata questa grande cosa. Allora posso usare come azione bonus The Name Speaker? Ma certo che puoi. Ok. Ma certo che puoi. Allora urlo il mio nome. Io sono Pyre Corno Grande! E li intimidisco tutti. Vabbè, era loro. Ok, devono fare loro il tiro salvezza. Sì, si cagano addosso. Vedi che abbandonano le armi. Gli unici marinai intorno a te vedono il tizio che viene letteralmente scaraventato oltre il parapetto della nave. Dopo il tuo martello macchiato di sangue, tu li guardi con il tuo sguardo da minotauro inferocito, e parte la musica, e tutto a un tratto parte la musica, una musica ancestrale, una musica che preannuncia sventura e rovina, e iniziano le loro mani iniziano a tremare, le sciabole cadono ai loro fianchi e iniziano lentamente a indietreggiare da te. Molto bene. Una volta dovrei usare ma a questo punto vedete che sale sulla nave aggrappandosi a una corda e lanciandosi a mo' di Tarzan da una mano all'altra questa figura sempre incappucciata, leggermente più alta delle altre, e che si dirige minacciosa contro Pyre ha appena ucciso uno dei suoi, quindi direi che sì. Ma questo è quello grosso, quello vestito di quello nero, vestito più, sembra più bardato, sì. Più quello in cui io e Jump carichiamo insieme e lo spacchiamo. Quello che effettivamente è anche leggermente più grosso degli altri, perché è più grosso. È alto come me più o meno? Circa come te, circa sì. Come te. Non posso però non vedi corna spuntare dal cappuccio o roba del genere. Sta sulla nostra nave il tipo, sì, giusto, l'hai appena detto. Io sono salito adesso. Beh, ha visto Pyre scaraventarne uno, però anche ha visto John che praticamente lo... Come va a finire. John, hai voluto fare il tank, adesso tank. Vabbè, ma è Edo il tank. Io sono il paladino. Sì, va bene. Io sono tank, danno, healer, che cazzo faccio? Ci crediamo. Va bene. Due attacchi. Aspetta, contro John. Tira la casa almeno. Tiro a vabbè, gli diamo un D4, che siamo buoni. Siamo 1, 2, 3, 4. No, dico tra me e Pyre. Ah, tra te e Pyre, dici. Sì. Ci può stare, dai. Pari John, dispari Pyre. Pari John. Quindi, vedi che a differenza degli altri, questo non impugna due spade corte, ma una spada lunga e un pugnale. Vabbè. Con la spada lunga critta. No, dai, unlucky. Va bene. Con la spada lunga fa 19. Forse non è il tuo giorno fortunato. Non è il giorno fortunato. Con l'altra fa 16, quindi no. Con il pugnale fa 16. Bravi forte, ma non lo sei. No, scusami, non 16 fa 17, sì. Va bene. Vedi, tra l'altro, vedi che cerca di colpirti prima con un fendente laterale di spada lunga. E poi sbatte sulla spada di un altro. Ma tu pari rapidamente con il tuo scudo. Cerca poi di, con una rapida mossa e una piroetta, cerca di affondare nel tuo fianco un coltello. Particolarmente fregiato e con dei ricami, vedi che ci sono dei serpenti che si avvolgono intorno alla lama del coltello, ma di nuovo tu, di nuovo con lo scudo, riesci a deviare il suo colpo fino per non farti vedere. Senti che quel coltello è particolarmente minaccioso come arma. Senti, lo io vedi. Io l'unlucky me lo immagino che tipo lui è super figo, poi c'è tipo una cima dietro. Si era tipo dimenticato di slacciarsi il cinturone di sicurezza per il lancio da una all'altra. Mi ha attaccato il fodero. Va bene. Però ciò non vuol dire che gli altri due marinai che ti stanno ancora addosso non provino a... No, e questo era... ok, questo qua. Ah, ok, uno dei due marinai fa un altro 20, non naturale. Beccano solo i marinai, poveretti. Oh oh, 5 danni. Minchia. E un po' alla volta, vedi che i marinai servono a qualcosa. Ho 23 ferite, tra l'altro. Ok. Non sono proprio poche. Pyre e... No, no, scusa, non Pyre. Volevo dire Gallifrey e John, agite insieme. Ah, se tu gli fai abbastanza danni, lo attacco anch'io, se no mi curo. Io non me lo non posso usare, quindi Fireball. Lo dico a tutti, raga, posso Fireball? No, di no, poi vedi tu. Però sarebbe stato un bel finale. Fatto esplodere due navi, vedi tu. Ok, dai, allora dai, andiamo più tranquilli, anche così non uso i miei punti stregoneria per fare un altro slot. E andiamo, dai, secondo livello io userei Cloud of Daggers, là, e quindi sì, io l'ho casto proprio dove sta quello grosso grosso, quindi non devo tirare un cavolo e niente, ti prendi danni e zitto e mosca, 4, dodici. Questi erano Magic Missile, ho capito bene? No, è Cloud of Dagger. Ah, scusa. Quindi, okay. Se non si muove, si piazza ogni volta. Ah, mi piace. Aspetta, era a inizio quando lo lancio o inizio del suo turno? Perché è diverso, eh? No, mi sembra quando lo lancio. No, secondo me sarà inizio del suo turno, però vabbè. Dici? No, è all'inizio del suo turno. Ah, è già controllato? Ok, sì. Perfetto. Vabbè, 12 danni all'inizio del suo turno. Vedi che è avvolto anche i marinai che c'erano intorno, se vuoi. Sì, c'ha un range di... Ma se non volge anche me. No, c'ha 5 piedi, quindi... Ah quadra... no, no, allora è solo su di lui, niente. Sì. Scusa, mi sembrava fosse più grande. John, dimmi tu. Sposto Lanter's Mark su di lui. Fatto. E poi mi curo di 23 punti ferite esatti. Ti curi con? Cioè con quale? Ti tocca. Fino a Wadaimin. Sono un paladino, curo 25 punti ferita gratis al giorno. Poi ho gli incantesimi di cura che non volevo usare, ma vabbè. E vai. Ok, loro hanno fatto. Cioè, incantesimi di cura, cazzo. Di nuovo ci sono. Beh. I marinai su Fire e Gino. E più o meno. Fire, con un 22 ti prendo? Sì, io mi sento. Okay. Mentre Gino schiva il colpo, Fire subisci 6 danni. Ok. Di tipo? Slashing. Ok. E tocca proprio a Gino. Secondo me che è andato via. Fa una barca di danni, quindi forse è il momento che qualcuno mi venga a dare una mano. Gino, tocca a te. Grazie. Ok. Uno che spamma un sacco di male. C'è rimasto un tizio incappucciato addosso a te e anche un marinaio addosso a te. Fire c'è solo un marinaio addosso. Perché c'è un tizio. Un capitano addosso, vedi tu? Provo a sparare un fulmine al tizio. Sul tizio, il capitano o quello incappucciato a fianco a te? Incappucciato. In fianco a te, ok. Deve fare tiro salvezza. Ha fatto 1, quindi no. Quindi si becca 21 danni tutti quanti. Si becca. Bene, bene, bene. 21 danni non sono forti, dai. Diciamo che li sto facendo da qualche tipo. Li ha sentiti tutti. Però adesso è il suo tempo per cercare di... Tu sei anche un lupo, no? Sì, sì, ma non posso. Ah, sì, però puoi farlo perché è la concentrazione. Sì, sì, sì. Se attacco faccio meno danni. Ok, hai detto che hai 14 di classe armatura, giusto? Sì. Allora colpisce con entrambi i suoi colpi. E che le sue spade corte riescono a colpirti. E ti fanno 7 più 6, 13 danni. Però anche stavolta non avverti il bruciore del veleno come il primo colpo. Sembra che ormai il veleno si sia completamente volatilizzato. C'è qualche altro marinaio addosso a John che va a cagare. Tipo una Pyre, tocca a te. Ogni tanto tiriamo qualche dado su John, così. E l'idea sarebbe che questi qua ti aiutano a fare danno, però sono anche facili da eliminare. Beh, piano mi ha fatto un botto, mi ha fatto vedi. Tipo 10 punti ferita. Solo marinaio addosso. 10 lo prendi dal corpo. Allora, se ho solo un marinaio addosso, lo colpisco però in maniera non letale. Addirittura. Ci puoi provare. Ok. Va bene, quanto fai? 27. Non ti sei colpito. È in maniera non letale. Non lo voglio uccidere, lo prendo con diciamo un manico. Di tu se ucciderlo o no? No, appunto. O forse non può decidere, perché se fa 27 vuol dire che è talmente forte il suo corpo che vorrebbe non uccidere. 14 danni. Sì, sì, cioè... di che il marinaio cerca di colpirti, si sbilancia e tu ruoti su te stesso usando una mossa di wrestling unita al martello, lo fai girare, gli fai perdere l'equilibrio, lui cade a terra, gli dai un calcio in faccia e perde i sensi. Ecco, muoviti di qua adesso. Esatto, adesso vado ad aiutare Salla e uso il secondo attacco sul tizio. Oh. Ci sta. 3, 6, 7, 20. L'hai preso. 3, 6, 7, 20. Vabbè, il mio conto. D8 12 danni. Mm-hmm. E boh, guarda, visto che ci siamo, io ti direi che faccio action surge e la me lo attacco un'altra volta. Ok. Una domanda, io non mi ricordo una cosa, il potere del martello era utilizzabile una volta al giorno, vero? Sì. Ok. Troppo OP, se no. No, no, beh, ci credo. Con 12 non lo premo, immagino. No, con 12 no. Con 24, sì. 24, sì. Tiro, 5... 3, 8, e 3, 11, e 1, 12. 12 danni. Ok. Pyre. Tu gli sei andato addosso. Lui ha subito dei colpi da te, anche abbastanza potenti. Cerca di restituire la cortesia. Intanto piglia 12 danni di Cloud Dagger. Cloud of Dagger. C'hai ragione. Quant'era Cloud of Dagger? Volevi! Volevi! Furbacchione. Ok, ok. 12 danni di Cloud... Era 12 e hai già tirato? Sì. Okay. Allora, prima di tutto usa il suo movimento per togliersi dalla Cloud of Dagger. Ma come? Però... però deve restando... scegliere, sta su di sì. Me o sta su Pyre? John è in attacco di opportunità. Vedi, lo sapevo. E faccio merda, però niente, non ce n'è più l'arci. Quanto? 16. Con 16 purtroppo non l'hai colpito. Si muove troppo rapidamente per il tuo colpo. No, non c'ho i lucky, però li ha finiti l'arci. Sti cazzo anche i lucky. State calmi, raga. Tanto adesso rimarchio di nuovo, poi vede come va a finire. Si sposta dalla Cloud Dagger, riesce a schivare il colpo di John e cerca di colpire Pyre alle spalle. Allora. Con un 22? Sti cazzi, sì. Alle spalle. Con allora, un... No. 16? No. Niente. Riesce a colpirti con la spada lunga. Grande. Facendoti... 18 danni. Scusami, no. Scusami. Sono io, scusa. Volevo dire 8 danni. Mi è uscito un 18, non so che cosa. È il Mega John. E di nuovo, dopo averti sbilanciato con la spada lunga, cerca di... Vedi questo coltello apparire dal nulla, praticamente. Si muove talmente veloce che non riesce a vedere il suo colpo. Ma all'ultimo secondo riesci a usare uno dei tuoi corni per parare il colpo e deviare il coltello che stava per conficcarsi nel tuo collo. A proposito di parare, potresti anche usare il parry, ma va bene. Vabbè, ancora non è... Potresti anche repostare il miss che ha fatto. Vabbè, effettivamente quello potrei... Vedi? Ma sì, dai, glielo spariamo. Come non detto. Niente, adesso qualcuno di quei marinai che era su John prova ad andare su Pyre, visto che cercano di dare man forte attacco di opportunità. No, ma non si spostano, perché si è spostato il tizio da te, però gli altri non si spostano, siete praticamente addosso tu e Pyre. Il tizio si è spostato da te solo per evitare il Cloud of Dagger al prossimo turno. Vabbè, lasciamo, tutti riescono a spostarsi. Non ho mica detto tutti, ho detto alcuni di loro. Infatti sono solo due colpi su due, cioè, che su sono a entrambe le zone. No, se magari però uso il dato giusto. Beh, uno ha fatto 1, l'altro ha fatto 20. Che sfiga. Ok, Pyre sono altri 8 danni. Quando uno dei marinai proprio cerca di colpirti, ma inciampa sulle corde, cade, si arrotola nelle corde, dove il tipo salsiccia lì piegato a terra, e l'altro invece tu ti pieghi in due dal ridere e l'altro ti ficca la sciabola tra le costole. Perché... Vabbè, senti, ho mai dovuto utilizzare Perry. Cioè, Abbassatevi. Esatto, le balle. Ignoro tutto, sti cazzi. Cioè li parli. Cioè, ho usato Ok, va bene. Va bene, quindi ti permetto di ignoro un D8 più la mia destrezza di danno. Gallifrey e John, è il vostro turno. Vabbè, a questo punto io direi, tu non me lo... Sai una cosa, se posso usare Magic Missile e poi riusarlo utilizzando due slot per usarlo come funzione bonus? Scusa, non ho capito. Io posso usare i due punti stregoneria per castare un incantesimo come azione bonus. Sì. Quindi posso usare Magic Missile e poi riuso Magic Missile. No, perché abbiamo detto che se usi un incantesimo dopo puoi usare solo un cantrip. Ci ho provato, ugualmente. Va bene, la faccio mandare lo... Oddio, come sei diventato fiscalista, cioè, veramente, come sei diventato? Vabbè, comunque faccio, prima uso un Magic Missile e lo casto, sì, dai, no, lo casto a secondo livello. E niente, ti faccio dare. E lo casto su quello grosso. Diciotto danni? Però. E vediamo. E poi ti faccio pure Firebolt. Ormai ne ha subito il tipo. Faccio Firebolt. E quindi tiro per colpire. Ma mi sta dando che con 13 non colpisco. No, con 14 non colpisco. No, il tizio viene colpito ripetutamente dai tuoi Magic Missile. Sto finendo tutti i miei punti stregoneria. Colpito ripetutamente dai tuoi Magic Missile che lo prendono alla sprovvista, però riesce a ripigliarsi e evitare il tuo Fireball senza troppi problemi. Lo so. Questo è il momento. È il momento di votare questo nemico a Foltus. Foltus, io ti prometto che ucciderò il tizio che ho fatto. Non ha fatto niente il tizio. E faccio voto con Foltus per ucciderlo. Questo vuol dire, in parole povere, che ho vantaggio nel colpirlo tutte le volte. Vai, dai. Allora, 21. Hai colpito. È bello che Marco lo dice con tale è che non ha fatto niente, me l'immaginavo che potesse. E 20. Hai colpito. Che non ha mai colpito. Non ha mai colpito col coltello, perché se colpiva col coltello. Smitalo sempre con una spell di livello 2. Mai nella vita si può comprare. 8 10 15, 21 29. Che sfiga, 1-1. Quello più sfiga per Federico, che c'è di quello in pratica. 41 danni. Devo avere Windows se lo uno quello. Morto. Il tizio è leggermente esploso. Doveva essere il cattivone. Sì, questo sì, non ha fatto niente. Che tipo di arma aveva? A parte il fatto che il combattimento non è ancora finito. Perché... Io sai cosa? Ti luttiamo pure il cadavere. No, Marco, il combattimento è finito. Cade un fulmine e ammazza tutti quanti gli altri. No, tu avresti ancora un tizio incappucciato, ma... No, lo ammazzo con... Cioè, se non scappa terrorizzato, o il coglione. Cioè, dai, cade un fulmine, lo ammazzo su quel... Beh, a chi tocca? Tecnicamente hai due marinai così, ma proprio... Idea è un po'... Gino, vai, dai, Gino, finiscilo. Fagli fare un tiro di destrezza, difficoltà 14. Ha superato. E che coglioni. Sono destrorsi questi. Sono destronzi. Scusa, non sei un lupo, non puoi anche morderlo. Ah no, perché la tua azione. Quanto hai fatto di danno però? Sempre colpi 23, cioè 11. Ma posso fare un diverso? Niente. Tecnicamente è ancora in piedi, però per poco. No, dai, dammi un po' di soddisfazione. Lui cerca di colpirti di nuovo perché è il suo stronzo stasera. Con un sì, ti colpisce entrambe le volte perché hai detto che è 14. Per una sì. Volta. Se adesso sono muori. 12 danni. No, fa ancora in piedi. E lui dice ah, ah! E poi tocca a Pyre che ah, ah! La testa. Allora, quindi sostanzialmente Salla ha esploso il capo, lui ha esploso un altro, chi è uno che sta addosso al Gino. Il incappucciato che gli manca di un soffio di vita sta facendo ah. Vabbè, si becca una martellata, cioè, se non dà il dubbio. Ah. 20 naturale! Tanto perché... Vabbè, non voglio passare sotto voi, Italia. Ah, appunto, la faccio cosa se faccio. Non c'è il video tanto. Faccio 18 danni. Il primo attacco, se vuoi tiro anche il secondo. Non serve, grazie. Guarda. La finiamo qui. Anche questo tizio prende una bella martellata in testa e raggiunge i suoi compagni nel paradiso di Foltus. Paradiso per Foltus è solo. Oh, signori, è già 00:30, direi che la battaglia si conclude qui. Avete eliminato i più cattivi della ciurma, sì. Diciamo, ce n'erano anche altri sulle altre navi, però sono state fatte esplodere. E... volevo fare un appunto, qualcuno di voi è ferito? Perché io non sono ferito. No, vabbè, dipende. Tu eri ferito e ti sei curato. Però non lo so più, grazie Foltus. Vabbè, dai, che c'è? Salla, posso farti la domanda? Ma per caso Foltus sei il dio di John McClane, quello di Iar? Sì, esattamente. Che mi sa che... Una volta superati questi ostacoli, aiutate il resto della ciurva a disfarsi degli altri uomini rimasti sulla nave. Ormai tutto l'equipaggio della nave che vi aveva abbordati era stato trasferito o era rimasto sulla nave perché è necessario. Quelli rimasti, vedendo che non riescono più a sostenere la situazione, abbandonano la vostra nave, ritornano sulla loro e lentamente si allontanano per tornare da dove sono venuti. Guarda che si è alzato per far vedere la scritta blackout, ma non c'è la telecamera. Complimenti, avete distrutto un incontro che pensavo sarebbe stato più difficile, ma non vabbè, sono ancora comunque così. Volevo fare Devo dire al mio team che è andata bene così. No. Marco, sì. Io ti avevo detto di non depotenziare i tizi, perché sennò qua... Se i maghi restano dietro e i guerrieri vanno avanti, funziona Gallifrey. Quindi non fare come al solito, ragazzi, ciao, posso venire in corpo a corpo. Sì, però l'unica cosa che dovremmo imparare dalla prossima sessione è che... Cioè, l'avete visto, cioè, alla fine il mio incantesimo è forte più che altro perché faccio 20 radiali di piedi. Sì. Però il problema vero è che io dovrò fare una scheda nuova perché la prossima sessione Marco mi one shot al PC. Sarei un po' tentato, ma no, scusa, il tuo PG non voglio ucciderlo solo perché sei estremamente forte. Perché adesso, è che poi adesso sei forte per essere di quinto livello. Cioè... Sì, sì, al sesto farò solo un D8 in più. No, nel senso, la classe armatura 20, più si va avanti, meno si fa sentire. Cioè. Sì. È che non posso, il punto è che non posso fare i nemici che hanno un più 8 per contro di te, contro gli no, altri. Lo so, il problema vabbè. Che hanno gli altri quando io faccio il druido. Il punto è questo, adesso quando effettivamente i nemici hanno magari un più 8 per colpire verso tutti, allora anche John verrà colpito un po' di più probabilmente. Lo so che il power play fa male. Andiamo a riposare allora? Cioè, nel senso, me lo dimentico sempre, ma adesso penso dei trucchetti. Okay. Adesso John deve imparare a soffrire un po' anche lui. Ma parliamo di cose serie, scusa Master. Ma quando si sale di livello? Quando si sale di livello. quando si... Dio santo, abbiamo fatto 4 sessioni dall'ultima volta che siete saliti due. Cioè, siamo a livello 6, quindi ci vuole ancora di più. Però, visto che mo... Cazzo, cazzo, già ha battuto due navi, se non è, non è exp quello. Mi hanno detto che adesso i livelli li faccio salire io quando sento che è giusto il momento. Quanti sono un galeone? Il galeone, cioè, che cazzo è? Va bene, dai. Così si conclude la puntata? La quarta puntata di Cross Destiny. Con uno dove fatto ad hoc. Pirati più pippe di quanto il master pensasse hanno perso la vita. Ricordatevi quando pensavate che era inutile, adesso vedete il mio vero potere in atto. E dovete aspettare il livello 6 quando io potrò fare danni di fuoco. Vabbè. Grazie al mio... Metto una notizia in anteprima. Da quanto... Tanto non ascolta nessuno. Sarò potentissimo! Però c'è una nuova pagina, una nuova sezione nel sito che si chiama Shop. E potete cliccarci e comprare la roba. Se proprio non avete idea di come spendere i vostri soldi guadagnati col sudore della fronte, con... Vabbè, vi arriva della roba, non è che li regalate. No, cioè, voglio dire, ci sono sempre le prostitute in via, così. Sì, però se non avete... dollari mi sa che non ci arriva. Se metti che tipo una sera non ti tira, ci sta benissimo che ti consoli con un cuscino o con la tazza di RIP GDR. Potrei bere le tue stesse lacrime nella tazza. Aspetta, ma è importante, Sara, ma c'è un cuscino grandezza naturale tipo fatto a modello come te? Cioè come a modello te, tipo... No, non c'è, sono unico, come John. Va bene, ciao ciao, chiudo la diretta.